si può fare. Cronache da un paese migliore. Di Alessio Maurizi. Buonasera, buonasera cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Si può fare dalle 18 alle 20 e 30, 800 24 00 24, buonasera e auguri da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buonasera. Eccoci a tutti. Eccoci qua, e ricordiamo anche che in redazione abbiamo questa sera Cristian Goldoni, Isotta Scena, in regia Valeria Bernardi. Sì signori, e Andrea Piana che ci aiuta a scrivere. Certo, certo, 800 24 00 24, hai visto cosa è successo a Cortina, sono rimasti... Senza luce. Sì, ho visto, sì. Ho un'amica che è là e che doveva fare una telefonata per conto mio e mi ha detto non riesco neanche a ricaricare il telefonino e quindi non ho insistito e sono andato ad informarmi. Effettivamente c'è stato un blackout. Mai come quest'anno, però c'è stata scarsa solidarietà nei confronti di queste persone, perché vai su Facebook, sui social network a dire ma chi se ne frega, questi VIP in vacanza dovessero morire tutti. No, in che senso? L'hai letta così? C'è stata gente che ha fatto commenti così, tutti un po' ironici, ma chi se ne frega. Vabbè, è difficile, la solidarietà per i miliardari è difficile trovarlo, non è il momento giusto, diciamo. Curiosa questa coincidenza, proprio a Cortina, no? Che sia successa questa cosa qua. Ma credo che sia successa anche in altri posti, in altri però posti. Diciamo fatto si dice Cortina, sì. Perché, ma un po' secondo me era un regalo per invece chi a Cortina non ci va, tipo noi che invece rimaniamo qui a Milano e che quindi diciamo, beh, però hai visto, noi siamo rimasti a Milano, però loro sono al buio. Esatto, e poi è stato Natale della foto dei maiali attorno ai cassonetti nella provincia di Roma. I maiali, sì, i maiali li abbiamo visti. Nessuno però ha detto come ci sono arrivati fin là, cioè tutti a dire ci sono i cassoni, ci sono i rifiuti fuori, a Roma non si fa la raccolta in questi giorni perché evidentemente non so, ci sarà personale in ferie, ma come ci sono arrivati fin cioè, lì? Cioè tu dici maiali? Va bene che ci sono i rifiuti in giro, ma il vero problema è che qua i maiali circolano liberi. Esatto, questa è la cosa assurda. Che i rifiuti possiamo anche trovare il modo il nuovo per eliminarli, ma come mai a Roma a meno è pieno che non di li maiali abbiano messi liberi in posa lì per fare la foto di Natale? Volevo dire un'altra cosa. Così era una battuta un po' grillina. Dicevo, ma forse i maiali in realtà sono i nostri politici che vanno in giro liberi per Milano, per Roma. Questa è troppo facile. 800 24 00 24. Intanto, al di là delle dichiarazioni di facciata di Letta, hanno approvato il mille proroghe. Napolitano ha detto dobbiamo rivedere un po' i regolamenti parlamentari, perché qua queste leggi mancia ci scappano sempre a fine anno. Secondo ci scappano, nel senso che vogliamo moltissimo approvare, sì, ma purtroppo non ce la facciamo. Non ce la facciamo. E non lasciano mai la mancia. Questi, il governo è agli sgoccioli, lo dicono tutti. Quindi prepariamoci, sarà 2014, si voterà di tribolazioni. Ma è sicuro questo? Ma lo dicono un po' tutti, adesso sentiremo. Anche quelli che lo sostengono lo dicono. Vabbè. Io vengo qua a Radio 24 perché parlo con te, che sei un giornalista, io invece faccio lo stagista, voglio avere dei lumi. Vedrai, tra pochissimo. Intanto sentiamo la dichiarazione del capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, D'Incà, che dice abbiamo vinto noi. Abbiamo vinto, e lo ripeto perché sia chiaro in quest'Aula, noi del Movimento 5 Stelle abbiamo vinto. È una delle più grandi vittorie, perché questo decreto è solamente il decreto salva casta, è un insieme di marchette con cui il governo Letta cercava di cementare la propria maggioranza. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shins and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on. We are the champions. Dovevamo fargli fare il ritornello, no? Ora io non lo so quanti condivideranno l'entusiasmo dei grillini che dicono abbiamo vinto noi, però è vero che in altri anni, con altri parlamenti un po' meno grillini, probabilmente una legge come il Salva Roma sarebbe passata sotto silenzio, diciamo, possiamo dire. Sì, sì. Beh, qualcuno avrebbe scritto sui giornali, forse qualche modifica sarebbe stata fatta, però sarebbe passata. Sì, anche se abbiamo detto giustamente l'ultima volta che in realtà la Lega rivendica che il primato che è suo, il PD di Renzi dicono che il primato è loro, quindi in realtà... Infatti senti che infilata di dichiarazioni tutte sul fatto che il governo è alla frutta. Cominciamo con Gasparri, che è di Forza Italia, quindi è all'opposizione. Lo sentiamo? Il governo è arrivato al capolinea tra spese clientelari, regole violate, censure del Presidente della Repubblica. Letta ne prenda atto, si faccia la riforma elettorale e si vada al più presto al voto. Poi c'è la Lega con Giorgetti, sentiamo, anche qua siamo all'opposizione fin dall'inizio della nascita di questo governo, quindi non c'è da stupirsi, però sentiamo. Per Roma si può violare la Costituzione, i comuni d'Italia non possono violare il patto per dare i servizi ai cittadini. Questo è intollerabile e la battaglia per quanto riguarda la Lega ricomincia su questo decreto che proprio oggi il governo ha adottato. Però c'è anche Gentiloni, che è del PD, che è l'azionista principale di maggioranza di questo governo, che dice: abbiamo fatto un pasticcio, bisogna cambiare. Sentiamo. Non possiamo nasconderci che il pasticcio di questi giorni è stata anche una grande prova di debolezza del governo e della strana maggioranza che lo sostiene, e anche di inutilità di una opposizione che fa solo insulti. Quel che è chiaro è che serve una svolta. A partire da gennaio un cambio di marcia del governo e della maggioranza. Certo che detto con questo tono quasi. Voglio vedere chi domani, quale giornale domani titolerà il pasticcio di Natale, direi, che mi sembra proprio un po' culinaria, ma insomma. Senti, lo vuoi sentire? È una bella intervista che ha fatto Radio Capital all'imprenditore, all'immobiliarista, quello che ha i palazzi a Roma, dove ci stanno per esempio uffici della Camera, del Senato, gli uffici dei parlamentari, che insomma noi paghiamo un sacco di soldi di affitti, esatto, cosa che è stata corretta poi con questo mille proroghe, i cosiddetti affitti d'oro. Lui è questo imprenditore importante, che ha incassato tantissimo denaro pubblico, però dice in sostanza, anzi a me mi dovrebbero fare un monumento, e non ho capito bene perché, sentiamolo. Ho fatto una cosa che è irripetibile, mi dovrebbero dare una medaglia, io credo, no, non lo so, io le posso garantire, con i conti alla mano, io non è che guadagni. Perché tenga presente che io per fare tutti questi soldi avrò speso un paio di 100 milioni con gli arredi. La Camera non ha tirato fuori un soldo non ha tirato fuori. Ma per carità, guardi, mi sono proprio scocciato. Non ha guadagnato un soldo. Complimenti per gli arredi, direi. Nel senso che, voglio dire, ha speso un paio di 100 milioni per gli arredi. Devo dire che... Chissà perché lo faceva se non ci guadagnava, no? Non conosco, quindi non prendo posizione. Ma passiamo proprio al gioco delle parti. Comunque, sentiamo ancora un altro passaggio di Scarpellini. Sentiamo. Hanno creato tutto questo problema, non capisco il motivo. Chi sono questi 500 dipendenti? Sono i miei dipendenti che fanno i servizi per la Camera, ossia dalle pulizie, alle mense, ai servizi ai piani, alla posta. E questo, se lei pensi solamente, un dipendente della Camera quanto prende rispetto a loro? Pensi che cosa succede? Quanto prendono loro? E prendono 1.000, 1.050, 1.100 al mese. La Camera ha fatto un affare iperbolico, che io devo stare sempre sui giornali, ma mi sono scocciato. Quindi l'affare lo ha fatto la Camera. Affittandolo a lui. Si lava le mani, diciamo, e poi la responsabilità è tutta sua. Nel momento che qualcuno si lamenta del fatto che costa troppo poco, si va all'imprenditore. Questo mi sembra di aver capito. Però un indizio sul fatto che dobbiamo questa retromarcia in gran parte sicuramente al Movimento 5 Stelle ce lo dà proprio Scarpellini, che se la prende un po' con loro, giustamente, perché gli hanno messo i bastoni tra le ruote. Sentiamolo. Perché siete, sto pensando di andarmene all'estero io. Non si può lavorare in questo stato così. Ma che stiamo scherzando? Deve convincere quelli del Movimento 5 Stelle. Quelli chiacchierano troppo. Prima da parlare, devono vedere i miei conti. Gli ha dato la vittoria, direi, ai 5 Stelle, visto che si stanno litigando la primogenitura, diciamo, della lotta contro il Salva Roma. Se l'è presa con loro, non con altri, lui. Quindi, comunque, la pensiate, 800 24 00 24. Tra poco, dopo il traffico, entreremo con tutti e due i piedi nell'affare che sta dividendo l'Italia in questi giorni. Favorevoli, contrari, il metodo Stamina. E allora lo salutiamo subito. Davide Vannoni, buonasera. Buonasera. Buonasera. Resti con noi perché facciamo una pausa per il traffico e poi ci dirà se davvero vuole lasciare l'Italia lei con i suoi pazienti, visto che ormai sembra che abbia tutti contro, e le notizie dell'ultima ora sono che si starebbe stringendo il cerchio attorno a lei, al suo metodo, alla Procura di Torino, le indagini verso la chiusura e tra l'altro anche le ultime dichiarazioni che vengono dall'ospedale di Brescia. E allora, come detto, abbiamo ospite Davide Vannoni, presidente di Stamina Foundation, quello del metodo Stamina. Lui non è un medico, lei fa lo psicologo all'Università di Udine, insegna, vero? Beh, in realtà ho cambiato università, sono all'Università di Roma. Ecco, non è più a Udine, è stato comunque... un trasferimento da poco e quindi niente, la mia nuova università è a Roma. Lei non è un medico, non ha rifiutato fino ad ora di porre sotto, diciamo, controllo, come si fa normalmente nel metodo scientifico, la sua procedura, il suo metodo, perché le dice abbiamo paura che ci rubino il brevetto, però lei stesso ha tentato di avere accesso a un brevetto negli Stati Uniti e gli è andata male. Già queste due premesse giocano, dal mio punto di vista, un po' a suo sfavore. Io le voglio chiedere intanto questo: come mai uno che non è un medico ha cominciato a occuparsi di questo e a vendere cure? Ma senta, in realtà vendere cure è tutto un discorso da valutare. Intanto io faccio il presidente di una fondazione nella quale ci sono medici e biologi che fanno il lavoro dei medici e dei biologi. Io faccio il presidente di una fondazione. Quindi non ho mai toccato un paziente, mai ho fatto visite di pazienti, mai mi sono vestito da medico. Il mio lavoro è di fare il presidente e cercare di portare avanti questa metodica dovunque sarà possibile. Se in Italia non vogliono applicarla, non l'applicheranno, però le devo dire che in questo momento ci sono 200 giudici in tutta Italia che hanno ordinato agli ospedali civili di Brescia di applicarla. E le ricordo che questa metodica non è venduta, ma è gratuita. Però prima di farla a Brescia, non ci sono brevetti di Stamina. Stamina non ha nessun tipo di brevetto. No, infatti, metodica. Ma io non ho detto che c'è un brevetto, ho detto che lei ha richiesto un brevetto in America, ma non gliel'hanno fatto avere. Allora, abbiamo fatto una domanda di brevetto in Europa, in Canada, negli Stati Uniti. Europa e Canada le abbiamo ritirate. Quella invece negli Stati Uniti l'abbiamo lasciata decadere, quindi non vuol dire che è stata bocciata, sono state chieste delle ulteriori specifiche e noi abbiamo deciso di non fornirle. Però mi scusi, questo è un cortocircuito dal mio punto di vista logico, perché lei dice noi non accettiamo di far sapere alla comunità scientifica qual è il contenuto di questo metodo Stamina, perché abbiamo paura che ci rubino il brevetto, poi fate domanda per il brevetto e lasciate cadere. In realtà non è quello, perché un brevetto proteggerebbe Stamina. Stamina è una fondazione Onlus, quindi non ha brevetti da vendere. Il discorso, che cosa è successo? Che noi abbiamo consegnato, e come, al comitato scientifico del Ministero la metodica Stamina quando ci è stata richiesta, con le modifiche che ci sono state richieste dall'ISS. Quindi non abbiamo ottenuto nulla di nascosto. Se poi per la comunità scientifica significa prendere un brevetto e pubblicarlo su Facebook, oppure un'idea di sviluppo di cellule staminali e pubblicarle su internet, non è questo il canale attraverso le quali si rendono note le cose. Senta, però lei ha detto io non mi sono mai vestito come un medico, invece pare che le testimonianze di alcuni ex suoi pazienti, sarebbero una settantina, queste sono le carte che ha pubblicato la stampa in questi giorni che riguardano l'inchiesta della Procura di Torino, dicono proprio questo, che lei a Brescia all'ospedale andava in giro col camice, con gli zoccoli. Pensi un po' che c'è la smentita del direttore generale dell'ospedale, che spiega che io sono andato pochissime volte. Sì, però quello che l'ha ingaggiata, quello è quello che l'ha ingaggiata, quindi ha interesse a difendersi. No, non mi ha ingaggiato, magari se potesse, credo che il dottor Belleri cancellerebbe qualunque rapporto con Stamina, non è certo un amico di Stamina. Però sono stati loro a chiamarla a Brescia, perché c'era tra l'altro il tramite di un dirigente della sanità lombarda che si è fatto curare. Allora, però, intanto il direttore generale era un altro, mentre oggi c'è un commissario agli ospedali civili di Brescia. Era il dottor Coppini, che nel frattempo è mancato, e c'è una sua bella lettera inviata a Bruno Vespa nel quale racconta dei miglioramenti che hanno ottenuto i pazienti. Dopodiché l'ospedale civile di Brescia ha preferito non raccogliere più dati sui pazienti, limitandosi, visto che erano per ordine dei giudici le terapie, a raccogliere i dati, diciamo, della non-nocuità della terapia, cioè del fatto che non ci fossero effetti collaterali. Quindi oggi l'ospedale di Brescia è un prestatore d'opera su ordine dei giudici, come lo è Stamina d'altronde, che sta fornendo sempre gratuitamente sia all'ospedale sia ai pazienti le cellule per le terapie. Sì, però dal mio punto di vista, mi scusi Vanoni, lei lavora, il suo metodo è stato applicato a Brescia per il tramite di questo ex dirigente della sanità lombarda che era lui stesso malato e quindi evidentemente ha voluto provare. Prima vendevate queste cure a San Marino, in nessun altro ospedale questa cosa viene fatta, e a Brescia la fate perché i giudici lo ordinano, perché c'è un contenzioso aperto. Dal punto di vista medico mi sembra un po' poco. Lei stesso ha tratto questa la conclusione dicendo: me ne vado io e i miei pazienti dall'Italia. È vero che lei vuole lasciare l'Italia? No, allora, intanto chiariamo subito le cose. È vero che c'è un'indagine aperta dalla Procura, io non abbandono l'Italia e affronto tutto quello che c'è da affrontare, perché sono fermamente convinto di tutto quello che ho fatto. Sono che lei sia convinto, sì, questo lo crediamo. Il problema è che il metodo non funziona e che, è stato sperimentato solo a Brescia. Beh, mi sembra che lo dicano tutti quelli che lo hanno studiato scientificamente. Ma chi è che l'ha studiato scientificamente? Mi scusi. Intanto gli ospedali civili di Brescia. Tutti quelli che si occupano di queste cose, oltre lei che non è un medico. E hanno visitato i pazienti? Le risulta? Hanno analizzato attentamente tutte le cartelle cliniche, Vannoni? No, divida le due cose. Ci sono le cartelle cliniche degli ospedali civili di Brescia che si sono fermate al dire che non ci sono effetti collaterali sui pazienti. E questo è documentato, tant'è vero che il ministro Balduzzi ha fatto una legge per far continuare le terapie a Brescia, ricordiamoci questo. Poi ci sono tutte le analisi che i pazienti sono andati a farsi fare nei loro ospedali di riferimento, non dai medici di Stamina, ma da altri medici, che verranno presentate dai pazienti stessi domani mattina alle 10.30 in una conferenza stampa a Roma, dove non ci sarà Stamina, ci saranno i pazienti in cura con i loro esami strumentali e con le loro valutazioni mediche. Lei probabilmente, tanti hanno visto i miglioramenti dei pazienti attraverso dei servizi televisivi. Domani ci saranno anche i dati. Ma mi scusi. Però, lei mi parlava prima del dottor Merlino della regione Lombardia. Beh, una persona con una malattia genetica che si chiama sindrome di Kennedy, che porta al deperimento, alla paralisi completa, che in un anno ha ripreso 20 kg di muscoli e riesce a condurre una vita normale, diciamo pure che non ha avuto risultati, per carità, lo possiamo dire tutti, però mi sembrerebbe una presa in giro. Scusi, le posso chiedere una cosa? Perché io a parte che io credo a tutto, quindi credo dall'agopuntura al malocchio, agli antibiotici, alle cure omeopatiche, quindi io, se lei ha inventato il metodo per guarire la SLA, sono l'uomo più felice del mondo. Quello che mi chiedo è: perché non si può fare una ricerca scientifica precisa che accontenti tutti questi che dicono che non c'è la ricerca scientifica sul metodo Stamina, così lei c'ha i fondi e tutti guariscono? Guardi, due cose. Nel 2010 io sono andato al Ministero della Sanità insieme all'Associazione Italiana Niemann Pick per chiedere di fare una sperimentazione su questa patologia rarissima. Ma dove volevano darle i 3 milioni? Come? Dove dovevano darle i 3 milioni per fare questa ricerca? No, questo siamo nel 2010, quindi non siamo nel... Va bene, oggi. Scusi, allora l'ho interrotto. Nel 2010 e il Ministero della Sanità, dopo averci detto di sì, ci ha invece rifiutato la ricerca dicendo che per ragioni di fondi e per l'intervento di un terzo ente, che non sappiamo ancora noi oggi chi è, quella sperimentazione non si poteva fare. Non avevamo neanche chiesto soldi, per la verità. Per ma non ci spieghi cose difficili, però io dico molto nella pratica, nella concretezza. Nella siccome pratica, pare che questo metodo qui non sia... richiesto dal Parlamento, noi siamo stati disponibili a farla. Abbiamo consegnato un protocollo al Ministero e questo protocollo è stato bocciato prima ancora di far partire la sperimentazione. Il TAR ci ha dato ragione, il comitato scientifico è stato commissariato da, se vuole, esperti stranieri e stiamo aspettando la nomina di un nuovo comitato scientifico che faccia partire la sperimentazione. Senti, io volevo chiedere, non si è mai sottratta al discorso della scienza, ma non bisogna confondere due aspetti. Il primo è quello scientifico. Studiamo, capiamo perché, facciamo tutte le sperimentazioni del caso, andiamo avanti a step per conoscere. Però si è sottratta sì a questa cosa, infatti è l'unica vera cosa che li imputano è questa, direi. Giusto, io sono a Miami il 15 di gennaio per fare una studi di approfondimento ulteriori, oltre a quelli già fatti a Brescia, sulle nostre popolazioni cellulari. Quindi noi conosciamo molto bene la nostra popolazione cellulare. Andiamo Senta, a fare ma lei però prima di andare a Brescia si faceva pagare per queste cose. Stiamo 27.000... parlando del 2008, in cui prima doveva arrivarci un finanziamento che era stato garantito dalla Regione Piemonte, che poi è misteriosamente scomparso, e le dico proprio misteriosamente con molta convinzione, e ci ha lasciato biologi, macchinari che avevamo anticipato da pagare e diversi pazienti che volevano iniziare le cure. A quel punto abbiamo chiesto, la stamina non esisteva ancora, tanto per iniziare, abbiamo chiesto ad alcuni pazienti di contribuire e una parte di altri pazienti sono stati trattati gratuitamente, cioè chi ha potuto ha pagato, chi non ha potuto non ha pagato. La nascita di stamina poi successivamente ha permesso di riuscire a curare tutte le persone gratis, come stiamo facendo a Brescia, ovviamente non all'infinito e non tutti i richiedenti, perché abbiamo 25.000 richieste e 200 persone che hanno già l'ordine dei giudici per essere curate. Senta, siccome noi da soli non ce la facciamo a capire questa cosa qua, abbiamo invitato anche il dottor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerca Mario Negri di Bergamo, che saluto. Buonasera. Remuzzi, non vogliamo qua riaprire troppe questioni, però siccome stamina il dottor Vanoni, perché è laureato, ma anche se non è medico, dice che lui professore universitario che se ne vuole andare e che se ne andrà con i pazienti lascerà l'Italia. Io vorrei chiedere a lei, dottor Remuzzi, dal suo punto di vista, se questa è una buona notizia oppure no. Ma non è né buona né cattiva, in realtà non è una notizia, perché qui continuiamo a parlare di cose che in realtà non ci sono. Noi stiamo parlando di un metodo, ma questo metodo in realtà non esiste. Se voi vedete la relazione dei NAS, vedete che nei campioni sequestrati ci sarebbero forse tracce di cellule staminali, non siamo neanche sicuri, nessuna cellula nervosa. Prima dicevano che le cellule mesenchimali si trasformavano in cellule nervose, che è tecnicamente impossibile. Siamo di fronte, l'avete visto, insomma, a un gran pasticcio, c'è il brevetto ma non c'è il brevetto, sono tutte cose che non hanno niente a che fare con la medicina e con la scienza. Qui ho sentito dire che stamina non è mai stata, non si è mai sottratta alla scienza, ma qui si fa qualcosa che non ha nulla a che vedere né con la scienza né con la medicina. Cos'è per lei il metodo scientifico, dottor Remuzzi? Qualcosa di... Il metodo scientifico è uno solo, per far andare la scienza è scienza, per far andare un aereo da Parigi a New York servono determinate leggi che sono quelle della fisica, quello lo capiscono tutti. Un aereo non ci va con una fisica alternativa. E la medicina è la stessa cosa. Per quanto riguarda la sperimentazione, lei prima ha chiesto perché non sperimentiamo, poi finalmente riusciamo a capire se è giusto o è sbagliato. Il problema è che qua per sperimentare ci vogliono delle condizioni. Intanto serve un meccanismo d'azione plausibile se noi vogliamo sperimentare qualcosa, e questo non c'è. Servono dei dati negli animali che dimostrano che questa cosa che vogliamo sperimentare funziona almeno in modelli animali di malattie umane. Servono poi eventualmente, qualora si vede che questa cosa non dà dei danni importanti agli animali, ma eventualmente dà dei benefici, allora si può incominciare a sperimentare sull'uomo, si parte col volontario sano, ci sono tutta una serie di regole, si parte con piccoli numeri di pazienti, si registrano molto bene gli effetti che sono stati. E tutto questo secondo lei non è stato fatto nel caso? Lei ha avuto accesso alle carte, ha potuto leggere? Scusi, può non interrompermi, sì, per favore, perché ha parlato tantissimo senza che nessuno la interrompesse, quindi... Io rispondo alla domanda, sì, non rispondo a lei, rispondo alla domanda del nostro intervistatore che ci chiede com'è il metodo scientifico. Ma era l'intervistatore che l'ha interrotto? Ero io, era l'intervistatore che la interrompeva. Volevo sapere se lei aveva avuto accesso alle carte, dottor Remuzzi. Cioè, se no, lei... alle carte non ha avuto accesso, sì, nessuno, tranne che le persone della commissione, che sono tutte persone che conosco personalmente, che sono scandalizzati da quello che c'era in queste carte, a parte il fatto che è stato detto anche qua, cioè le cartelle cliniche prima si registravano, poi non si registravano. Insomma, la medicina non funziona così, con cose che si fanno o non si fanno, il brevetto c'è, però poi l'abbiamo ritirato. 800 24 00 24, cari ascoltatori, ben ritrovati. Tra poco cominceremo anche a sentire i vostri interventi e anche naturalmente vi chiederemo che cosa ne pensate di quello che state sentendo. Con il presidente di Stamina Foundation, Davide Vanoni, ha sentito Vanoni cosa dice il dottor Giuseppe Remuzzi, che è il direttore, un attimo, mi faccia fare la domanda, direttore dell'Istituto di Ricerca Mario Negri di Bergamo, una delle colonne della medicina e della scienza in Italia, dice chiaramente che lei non fa parte di tutto questo, non fa parte del metodo scientifico e voi siete fuori da tutto questo. Allora, o lui ce l'ha con lei e anche tutti gli altri medici che parlano in questo senso, oppure voi siete di fatto fuori dalla medicina e dalla scienza? Perché lei non dice più semplicemente che, con tutto il rispetto che va per i pazienti naturalmente, che lei a queste persone vuol dare una speranza, ma in un ambito diverso da quello della medicina? Qualcuno l'ha paragonata a un santone. Lei in fondo medico non è. Cosa si sente? Un futurologo, uno scienziato, un santone? No, come ho già detto, faccio il presidente di una fondazione, tanto per iniziare. E questa fondazione sta applicando una legge dello Stato italiano che prevede applicazioni di cellule staminali, terapia cellulare avanzata o terapia genetica. Ma lo fate solo perché c'è una legge, mi scusi, perché non è una risposta buona. Dici vado a curarmi un dente, non perché me lo dice una legge, perché mi fa male un dente e vado in un posto dove sì, mi curano il dente. Ma l'ospedale pubblico, cioè, ma ci rendiamo conto che stiamo parlando di una fuori terapia da quell'ospedale lì, però voi non pubblico, esistete, medici, Vanoni. Con del comitato etico. Sì. Con c'è un'inchiesta della Procura di Torino per mettere in discussione questo. Vanoni, scusi, voi siete a Brescia, ma c'è un'inchiesta della Procura di Torino che tra pochi giorni, poche ore, potrebbe mettere in discussione anche questo, dare un verdetto contrario e dire che siete fuori legge anche a Brescia. Non confondiamo le cose. I verdetti li danno i giudici alla fine dei processi. Sì, esatto. Non li danno i PM, che sono una parte, che ha una sua opinione. Sì. Quindi che il PM Guarniello abbia un'opinione, però per se carità, lei mi risponde che però lasciamo che i verdetti siano dati nei processi, se ci saranno, non certo a monte. Però se lei mi risponde che lei fa tutto questo perché lo ordina una legge italiana, allora no, perché c'è una legge italiana che lo consente. Sì. Dopodiché c'è la sperimentazione scientifica, che è un'altra cosa, e tra l'altro il dottor Remuzzi ha confuso due cose: la sperimentazione scientifica e il processo per l'autorizzazione di un farmaco, che sono due cose molto diverse. Oggi ci sono migliaia di pazienti malati in Italia senza cure, una legge che gli consente di provare una speranza, quindi con una terapia compassionevole, non certo con una terapia sperimentata, che richiede comunque 10 anni di lavoro più investimenti da circa 60-100 milioni di euro che nessuna università ha, e quindi a quel punto oggi questi pazienti con questa legge cercano un diritto. Quando la metodica stamina sarà completamente sperimentata, quando mai si troveranno i fondi, a quel punto i pazienti di oggi saranno già tutti morti. Quindi a quel punto noi stiamo cercando di dare una risposta ai malati di adesso. Cioè lei dice la ricerca pubblico e gratuitamente. Cioè che ci vuole troppo tempo per fare la ricerca, quindi lei dice io inizio già adesso perché sennò i pazienti muoiono, questo? Beh, questo è quello che permette la legge. Ma se voi, qualcuno ma lo brevette... una legge, una ragione l'avrà data. Certo, ma state brevettando il metodo stamina o no? Assolutamente no. Il metodo stamina, ma perché no? È stato pubblicato, non è brevettabile. Ma perché no? Perché è già stato pubblicato. Da chi? Dal brevetto ritirato, che non abbiamo concluso negli Stati Uniti e che abbiamo lasciato decadere, che è diventato pubblico, si trova su internet e quindi non è più brevettabile. Chiediamo un attimo al dottore Muzzi se vuole replicare, visto che sì, è stato certo. Tirato in ballo. Sì, prego. Certo. Tutto quello che abbiamo sentito sembrerebbe logico se uno lo ascolta. In realtà non è vero nulla. La legge dello Stato a cui ci si riferisce è una famosissima legge Turco, a cui Stamina si richiama sempre, che è una legge conosciuta come cure compassionevoli. In realtà le cure compassionevoli sono un'altra cosa. Si tratta di procedure già oggetto di sperimentazione sull'animale e sull'uomo, che sono già state autorizzate dalle autorità competenti, che possono essere utilizzate per un'altra indicazione, oppure possono essere utilizzate, per esempio, per pazienti particolarmente gravi in Italia, quando è avviata una sperimentazione in un altro paese, mettiamo in Inghilterra, in Germania o negli Stati Uniti, nell'attesa che si concluda la sperimentazione, per farmaci e procedure completamente autorizzate, che quindi hanno passato tutte le procedure autorizzative AIFA, Istituto Superiore di Sanità, tutto quello che serve per approvare farmaci o terapie cellulari, a quel punto lì si possono utilizzare come terapia compassionevole. Qui invece chiamiamo compassionevole, e questo è un altro di questi trucchi che sono, di cui è piena questa questione di stamina. Si fa passare per cure compassionevoli cose che non hanno nulla a che fare con questo tipo di legge, quindi la legge non c'entra niente. Tra l'altro tutto quello che è stato fatto a Brescia è tutto completamente fuori legge. Il problema è perché lo fa solo l'ospedale di Brescia, perché è una cosa fuori legge, perché ci sono state una serie di circostanze che hanno portato diverse persone all'ospedale di Brescia a essere trascinati in un vortice in cui adesso loro sarebbero felici di poter uscire, purtroppo le avrebbero dovuti fermare prima, anche il pronunciamento del comitato etico è completamente fuori legge, perché mancavano gli elementi per cui un protocollo potesse essere approvato dal comitato etico. Per esempio non c'era protocollo, quindi come può un protocollo, un comitato etico approvare una sperimentazione che non si sa che cosa si sperimenta? Quello però che c'è in queste provette non si sa nemmeno adesso, perché il poco che si sa c'è dal rapporto dei NAS. Quindi allora, quando è stato approvato, è stato fatto un enorme errore da parte del comitato etico, una cosa completamente fuori legge. Lei come lo definirebbe, una forzatura? Quel consenso informato, sì, sì, quel consenso informato attraverso cui i pazienti dovrebbero consentire di essere trattati, sì, ha dei requisiti di legge che sono molto precisi e che non erano affatto rispettati, a parte che una volta c'era, una volta non c'era. Quindi lì sono state fatte tutta una serie di cose fuori legge, persino la preparazione delle cellule in un ambiente che non è autorizzato per preparare le cellule è completamente fuori legge. Senta Vannoni, ma lei un attimo, lei adesso risponde anche a Remuzzi. Però lei si fa chiamare dottore, perché è laureato, dottor Vannoni. No, io mi faccio chiamare il professore, perché sono un professore associato all'università. Sì, ma lei non ha mai girato col camice dentro l'ospedale di Brescia? Ma perché sì, questo lo riferiscono alcuni medici. Deve girare alcuni... una persona col camice girando Lina, che è il vicepresidente di Stamina. Ma si figuri se io faccio finta di fare il medico. E allora le denunce che le stanno arrivando sono tutte falsità? Perché ci sono già delle denunce contro di lei. Allora, in relazione al camice, una cosa che ho letto sulla stampa, e le garantisco che il 90% di quello che ho letto sono delle menzogne, ma che non stanno nel cielo né in terra, smentite dal direttore, dal commissario generale dell'ospedale di Brescia, e anche ovviamente da tutti gli altri, perché ci mancherebbe che io giri, perché dovrei girare con un camice, me lo spiega, cioè per far cosa, per curare della gente gratis dentro un ospedale pubblico, o pensa che gli faccia io le iniezioni e i carotaggi, che scopo avrei? Cioè, è una cosa veramente, sono state dette in questi giorni, tra l'altro senza possibilità di replica, delle menzogne che non stanno né in cielo né in terra. Dopodiché, come le dicevo, dove sarà, viene ritenuto che ci sia un profilo penale, ci sarà un processo e ci sarà occasione di difendersi e di portare i dati a supporto di questa difesa. Chiaro che se non ci sono questi spazi e si danno delle cose per assodate, a questo punto diventa un fattore a senso unico, come è stato negli ultimi 5 giorni. Senta, sono state tirate fuori delle cose del, sì, 1900, del 2008, mischiandole con quelle di Brescia, dicendo, cioè, questo discorso che è stato fatto prima sulla legge delle cure compassionevoli e della legge Turco Fazio, il dottore Muzzi non farà l'avvocato, per cui sicuramente non le conosce, ma ci sono 200 giudici del lavoro che invece hanno riconosciuto ampiamente che l'applicazione della Turco Fazio dentro gli ospedali civili di Brescia era fatta correttamente, tant'è vero che hanno ordinato le terapie ai pazienti. Quindi da questo punto di vista, cioè, o giochiamo al ping pong delle opinioni, però oppure una cosa che ha detto il professore Muzzi, a cui non mi sembra che lei abbia risposto, però è questa: quando il suo metodo è stato applicato all'ospedale di Brescia, io ho citato, c'è anche il virgolettato di una dottoressa che dice, adesso le trovo anche chi, Arnalda Lanfranchi, che è responsabile del laboratorio, che dice: noi non avevamo accesso, non sapevamo quello che c'era in questa cura. Questo le risulta? Questa è una cosa, una dichiarazione della dottoressa Lanfranchi, ampiamente smentita successivamente anche dello stesso ospedale, con tutti i documenti che ci sono relativi alla caratterizzazione delle cellule, alla sterilità, al fatto che ci sono tutti i protocolli di produzione presso l'ospedale, compreso tutte le sostanze che vengono utilizzate. Ma stiamo parlando del secondo ospedale pubblico d'Italia, mica stiamo sparando di una clinica dentistica, cioè il secondo ospedale pubblico d'Italia, che ha lavorato con l'approvazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco sul metodo Stamina, ricordiamoci anche questo, sì, ha fatto tutte le cose in regola. Ma non mi scusi, ha fatto cose visto non che in regola. Visto che prima c'è, mi scusi un secondo, poi c'è un PM che dice che non sono state fatte le cose in regola. C'è un rapporto dei NAS già sbugiardato dalla Regione Lombardia con un ricorso al TAR, che ha dimostrato che quella prima visita ispettiva era stata fatta con i piedi, e dopodiché ci sono invece tutte le documentazioni che sono state consegnate al Ministero. Senta, che ovviamente non ne parla. Va bene, ma perché non pubblica tutta la procedura? Cioè, in modo che sia disponibile a tutti, visto che ha detto che non la si può più brevettare, perché mi sembra che sia stato bocciato il brevetto o ritirato da voi, è indifferente. Scusi, perché non pubblica? Nel momento in cui io dico tutto quello che utilizzo. Sì. Come faccio le cellule? Sì. Che cellule sono? Sì. Questo è quello che si dice. all'interno di qualunque pubblicazione scientifica, che infatti faremo, descrivendo queste stesse cose che sono già a conoscenza di tutti, se professore vuole. Muzzi, perché non lo fa quindi questa cosa? Tipo domani mattina? Ma come l'abbiamo già fatta? Tutti ci stiamo chiedendo come funziona. Sentiamo su questo professore Muzzi. Ha sentito cosa ha detto Vannoni? Ha detto che lui in pratica ha già detto quello che c'era da dire, cioè ha già reso pubblico tutto quello che c'era da dire sulla cura stamina. No, l'unica cosa pubblica è la richiesta dell'Ufficio dei Brevetti degli Stati Uniti di chiarimenti rispetto alla metodica che è stata giudicata in modo pesantissimo da loro. Tanto che abbiamo, tutta la comunità scientifica italiana ha fatto una pessima figura con la presentazione di quel brevetto, dove ci sono persino due figure copiate da un vecchio lavoro russo in russo, quindi si immagini l'originalità di un brevetto. Sì, che sono in realtà due collaboratori. Porta due figure di 15 anni prima, e le stesse persone che sono state oggetto di questa sottrazione di immagini hanno confermato che non erano al corrente di questa cosa. Volevo precisare che non c'è affatto un'autorizzazione dell'AIFA. Questa è un'altra bugia, l'autorizzazione dell'AIFA non c'è, anzi l'autorizzazione del... per questo dico che tutto quello che è stato fatto a Brescia è fuori legge, perché per fare sperimentazione con cellule serve come minimo l'autorizzazione dell'AIFA e l'autorizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità, due cose che non ci sono. C'è una lettera in cui il direttore sanitario o il direttore generale chiede a un funzionario dell'AIFA, ma noi dal momento che non abbiamo questa possibilità di fabbricare le cellule per la terapia cellulare, però ce l'abbiamo per le malattie ematologiche, possiamo utilizzare quello, e c'è una apertura di un funzionario dell'AIFA che dice ma forse, non so, però bisogna che voi presentiate questi chiarimenti. Se voi vedete i chiarimenti che sono stati presentati, sì, sono tre righe. Chiunque di noi che lavora con le cellule, noi per esempio lavoriamo con le cellule mesenchimali per indurre tolleranza al trapianto d'organo, il dossier di chiarimenti di cui ha bisogno l'AIFA per autorizzare una sperimentazione, trattasi di 50 pagine di dettagli, quelle cose lì dell'ospedale di Brescia, sono tre righe in cui dice ma insomma forse in fondo non c'è nulla di chiaro, e l'AIFA a un certo punto ha detto fermiamoci perché questa cosa qua è fuori legge, vi dovete fermare, e loro sono andati avanti. Allora 800 24 00 24 per intervenire in diretta tra poco. Prima però vorrei rifarle questa domanda a Vannoni, è questo, cioè perché capisce che se, dal mio punto di vista, se aggiungiamo a diciamo, io dico personalmente come la penso, la mia scarsa fiducia nei confronti del metodo stamina, se poi lei mi dice che all'estero va, ma va a Capoverde, allora io mi preoccupo ancora di più, perché non è che sia famoso per la sanità a Capoverde. Se lei andava in Svizzera o negli Stati Uniti o in Francia era diverso. Lei state veramente pensando di andare lì? No, allora chiariamo subito la cosa. Ci sono, da un lato c'è la parte di ricerca che noi andremo a fare adesso a Miami a gennaio, e quella è una cosa fondamentale. Per il resto abbiamo richieste, ma non da parte di Stamina, da parte di pazienti che si stanno organizzando per gli affari loro, per poter trovare luoghi nel mondo dove poter avere le terapie. Questo nessuno glielo può negare, perché la libertà di cura, no, certamente, c'è, questo si figura, sì. E noi, se potremo aiutarli, che sia in Venezuela, che sia a Capoverde, che sia ad Abu Dhabi, che sia a Dubai, che sia sulla in Luna, Giappone, lo faremo, in qualunque parte del mondo possano farlo. E dove ci siano le punto autorizzazioni ministeriali per poterlo fare. Il punto è questo, dove lei lo potrà fare? Siccome è stato lei a citare Capoverde in questa intervista a Repubblica, è tra i luoghi possibili, insomma. Sì, se c'è un'autorizzazione di un ministero che consente di farlo, e le ribadisco, non c'è una società che va e produce a pagamento cellule per i pazienti. Non ci metteremo mai nel mercato della speranza. Però lei, non l'abbiamo fatto in Italia, non lo faremo lì. Qualora dovesse arrivare una richiesta di rinvio a giudizio e dovesse aprire un processo anche nei suoi confronti, lei rimarrà in Italia per affrontare il giudizio? Ma ci mancherebbe, ma guardi che io mica scappo, io non sto, come le dicevo, io non scappo da niente. Io, se c'è una richiesta di rinvio a giudizio, affronterò il mio processo, perché lo affronterò a testa alta, perché sono convinto di tutto quello che ho fatto per me e per i pazienti che hanno seguito il metodo Stamina attraverso i medici di Stamina e i biologi di Stamina. Io non vado a produrre cellule da nessuna parte, perché non sono in grado di produrre cellule. I biologi andranno a produrre cellule, insegneremo la metodica a biologi e medici che andranno a produrre dovunque si potrà applicare la metodica stamina. Non è che io scappo con la valigetta a fare le terapie all'estero, mi scusi, come le dicevo, sono il presidente di una fondazione, non sono un trafficone di staminali. A proposito di questa fondazione, lei dice continuamente: io non sono io un medico, sono il presidente di una fondazione. La sua fondazione, adesso le faccio due domande: dove ha sede e quanti medici ci lavorano? Allora, la fondazione in questo momento ha sede a Torino, siamo piccolissimi e in realtà i medici che lavorano sono i medici dell'ospedale di Brescia, perché sono loro che fanno le infusioni e ovviamente i carotaggi ossei, e i nostri biologi fanno la preparazione cellulare. Sì. Oggi Stamina sta formando i nuovi biologi, perché servono anche solo per mantenere in attività il grande numero di richieste che ci sono su Brescia. Abbiamo quattro medici che collaborano con noi in maniera più o meno diretta, Marino Andolina per esempio, che era il direttore del centro trapianti Burlo Grosso di Trieste, e oltre ad essere vicepresidente di Stamina è anche il nostro medico di riferimento principale. Poi ci sono altri tre medici che si stanno occupando dei pazienti, stanno raccogliendo le cartelle cliniche, gli stanno consigliando quali esami fare, e poi i pazienti vanno a farsi gli esami nei loro ospedali e nei loro centri. Quindi, se ho capito bene, ci sono circa sette medici che collaborano con lei, più i biologi che preparano, diciamo, esatto, la cura. Chiaramente i nostri medici in questo momento non stanno facendo nessuna applicazione, fanno solo diciamo il controllo dei pazienti. Come... le applicazioni le fanno i medici di Brescia. Sì, chiaro. Come vi mantenete però? Come mantiene lei questa struttura, visto che... Guarda, io l'ho mantenuta con i miei soldi personali, perché prima di occuparmi di staminali mi occupavo di altro, sì, e in maniera anche ben redditizia, e dopodiché oggi riceviamo delle donazioni, però prevalentemente le garantisco che non sono la stragrande maggioranza. E infatti, oltre quello che stiamo facendo, difficilmente riusciremo ad andare come numerosità di persone da trattare. A quel punto vedremo se ci saranno degli altri benefattori in Italia che vorranno aiutare Stamina. Stamina sarà ben accetta e accetterà tranquillamente le loro donazioni, che sono ovviamente trattate nella massima trasparenza, e per poter portare avanti le terapie compassionevoli. Sì. In Italia. Un'ultima cosa le voglio chiedere, perché secondo lei una specificazione sull'altra domanda di, sì, prima: nessuno dei pazienti in cura e anche in lista d'attesa può fare donazioni alla fondazione, proprio per non confondere le idee. Questo è stato da sempre. Stamina non ha mai ricevuto soldi da nessun paziente. E quindi chi le fa le donazioni? Le donazioni arrivano dalla popolazione, sono donazioni di 50 euro, 100 euro, c'è qualcuno che ci ha donato 1500, ne può fare per esempio, credo, un parente, no? Un parente di un paziente. No, noi abbiamo proprio chiesto ai pazienti che non siano né loro né i loro parenti a fare donazioni. Vabbè, è molto difficile controllare questa cosa. Il piano di una donazione che arriva da chi tutto sommato vuole sopportare questa battaglia. Ma sono trasparenti le donazioni? Cioè lei ha un elenco? Lei ha un elenco di donatori, Vanoni? Cioè lei ha un elenco di donatori trasparente? Ma ci mancherebbe, ci sono tutti i bonifici fatti, non sono donatori, non sono donazioni contanti, sono donazioni fatte con bonifico sul conto. Ma perché la cura è totalmente gratuita per chiunque? All'ospedale di Brescia, certamente. Nessun paziente paga un centesimo, di nessun genere. Vanoni, un'ultima cosa gliela voglio chiedere però: fuori da Brescia, perché secondo lei nessun altro ospedale si è interessato alla sua cura? Per adesso ci sono, l'ospedale di Pescara attraverso la regione Abruzzo, dove abbiamo già fatto un incontro anche tecnico che è stato pubblicizzato, dove la regione stessa vorrebbe aprire le terapie di stamina. C'è un interesse anche da parte della regione Lombardia, un interesse da parte della regione Veneto, che si è detta disposta ad aiutare la situazione di Brescia, c'è un interesse da parte della regione Sicilia, in cui i parlamentari siciliani hanno già votato una legge per poter portare la metodica Stamina in Sicilia. Dobbiamo fermarci qua. Sono interessati a Stamina. Ben ritrovati, buonasera da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. 800 24 00 24, impegnativa intervista con Davide Vanoni, presidente di Stamina Foundation, coadiuvati dal professor Giuseppe Remuzzi dell'Istituto Mario Negri di Bergamo. perché ci sono notizie che arrivano dalle agenzie sul fronte proprio del metodo Stamina. Allora la procura di Torino va verso la conclusione dell'inchiesta e le ultime carte che anche l'ANSA dopo la stampa ha avuto modo di analizzare dicono questo: su 36 pazienti nessun caso di miglioramento, non c'è alcuna prova documentata, leggo virgolettato, di miglioramenti reali nei pazienti sottoposti al trattamento Stamina. È quanto appare dalle schede di sintesi delle cartelle cliniche elaborate da Brescia e consegnate agli esperti del primo comitato istituito al Ministero della Salute. Quindi il Ministero della Salute ha fatto un comitato per valutare il metodo Stamina sulla base di quello che è stato fatto a Brescia, e quello che risulta è che non c'era alcuna prova di miglioramento in 36 pazienti. Ci tocca richiamare Vannoni, direi. No, vabbè, richiamerà lui. Questo l'aveva già anticipato la stampa nei giorni scorsi, adesso c'è una conferma. Ed è per questo che abbiamo chiamato Vannoni, che oggi in un'intervista a Repubblica aveva detto me ne vado all'estero, ed a noi in parte ha anche confermato. No, a noi anzi ha detto io non vado, sì. Non scappo, se c'è il processo io vado sotto processo. Però ha detto se ci ospitano da qualche parte andiamo, per esempio. Sì, perché sono dei pazienti, lui ci ha spiegato che sono dei pazienti che si sono messi insieme, hanno messo dei soldi per andare a Capoverde, esatto, in una clinica e lì andare avanti. Però Capoverde, Capoverde. Però lui ha detto che non scappa. Fulvio da Roma, buonasera, benvenuto. Buonasera. Prego. Dunque, io sono medico, sono stato direttore sanitario di un'ASL di Roma, del San Camillo di Roma, sono stato per 10 anni presidente di comitato etico aziendale. Però non è che ci sono molti modi di sperimentare le cose in medicina. Dagli anni 80 che sappiamo che c'è una fase 1 sugli animali, una fase 2 sull'uomo. Quello che ricordava anche Remuzzi, sì. Quindi? Ma non si può barare dicendo che si confonde l'autorizzazione dell'AIFA per l'immissione di un farmaco con la sperimentazione. L'immissione in commercio viene dopo che il farmaco è di comprovata efficacia, stiamo parlando di questo. Ma che quindi Fulvio, la sua conclusione qual è? Fulvio, abbiamo speranza ai pazienti di oggi. Sì. Voglio dire, nella storia di medicina c'è anche quello che quel professore di neurologia che sparava un ago di crine di cavallo nel cervello del paziente che aveva avuto un ictus. Va bene Fulvio, abbiamo capito, grazie. Allora, tra l'altro lo sentiamo anche male, Fulvio. Stiamo a Roma. Ezio, buonasera. Ezio. Buonasera. No, vi ringrazio di avermi fatto intervenire. Io francamente sono costernato. Cioè, io, come tanti altri, abbiamo sentito chiaramente alcune madri e padri di questi bimbi malati che dichiaravano di fronte a telecamere, senza essere doppiati, che c'era stato un miglioramento. Un padre e una madre, se dicono una cosa del genere, vuol dire che è vera. Quindi questi luminari della scienza potrebbero avere un po' di umiltà ed andare a vedere perché sono migliorati questi bambini. Ha ragione, ma è quello che stanno facendo in realtà. Guardi, io concordo con lei. Non stanno facendo assolutamente quello. Ascolti un secondo. Perché non starebbero facendo questo? Ezio, scusi, perché non starebbero? Ezio, ascolti anche le... Non ci sono andati. Stanno guardando le carte. La vera cosa è che lei giustamente dice, una madre e un padre che dicono mio figlio è migliorato hanno sicuramente ragione. Purtroppo sappiamo tutti che in realtà quello è proprio il momento peggiore, diciamo, per fare una diagnosi, perché in realtà è un momento di sofferenza e uno, diciamo, pur di avere speranza in qualunque cosa. Ma io sono d'accordo con lei. Non ci casca. Io mica da povero presidente che non avete lasciato parlare. Guardi che io sono un cittadino normale, non ho nulla. Ezio, non abbiamo lasciato parlare Vannoni è stato con noi mezz'ora. Vannoni ha parlato per 20 minuti, quindi l'abbiamo strafatto parlare, sì, se no non l'avremmo invitato. Però mi scusi Ezio, le faccio io una domanda. Ezio, state zitti, non avete più interrotto quel povero Cristo, l'avete interrotto 45 volte. Ma cosa? Quale povero Cristo? Le faccio io una domanda, per quale motivo per quale... Mi andrò a risentire la trasmissione, il podcasting, per vedere quante volte è stato interrotto. Ezio, le faccio io una domanda. Per quale motivo, secondo lei, i luminari, i medici, come dice lei, non vogliono accettare il metodo di Vannoni e sarebbero contro di lui se questo metodo è davvero rivoluzionario? Per quale motivo? Sono cattivi i medici italiani, tutti? Mi sembra ingenuo. Sicuramente sotto questa cura, ammesso che poi si è Ma mi risponda alla domanda, per quale motivo gli scienziati, dice lei, certo, sono contro Vannoni? Perché? Certo, secondo lei sotto una cura del genere che business c'è? Ma business è che si faccia il business. Io sono ben contento che Vannoni si arricchisca tantissimo, si risolve il problema del Parkinson. Ma che qualcuno invidia che si arricchisca lui e invidia. Abbiamo capito, grazie Ezio, buonasera, grazie. Andiamo a Firenze. Luca, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Io volevo dire questo. Innanzitutto non ho da parte di nessuno dei luminari della scienza che stanno interloquendo il professor Vannoni, ho sentito che ha parlato di quelli che sono i diritti del malato, i diritti di un malato che ha tutto il diritto di essere curato in Italia con il metodo che naturalmente è riconosciuto e poi può essere riconosciuto. E che è in corso di approvazione, quindi prima deve essere approvato. È fondamentale da mettere avanti, non è le procedure che poi magari vanno a fare quello o quell'altro interesse, non so se ci intendiamo su questo. Prima cosa, seconda cosa, mi sembra che avete instaurato una specie di processino in diretta contro il professor Vannoni. Terza cosa, e concludo così la faccio breve. Vi dico, il professor Vannoni mi sembra, siccome è una di quelle storie di tanti ricercatori, migliaia di ricercatori che sono dovuti andare all'estero, ebbene io dico che il professor Vannoni farebbe bene andare subito all'estero. Ma il professor Vannoni è già stato negli Stati Uniti e l'hanno rimandato qui. Dice lei in modo stuzzicando, diceva andare a Capo Verde. No, lui farebbe bene andare immediatamente. Ma lui è già andato negli Stati Uniti. Professor Vannoni, ma ascolta, perché in Italia non ci sono le condizioni. Ma è già andato negli Stati Uniti, signor Vannoni, e negli Stati Uniti gli hanno detto no, grazie. No, e questo è il problema. Mi pare che il problema è proprio di mancanza di voglia di comunicare, perché avete sentito anche l'ascoltatore che non gliene frega niente di quello che dici, esatto, tu, Carlo. No, ma va bene. A parte adesso non abbiamo interrotto Vannoni, cambiamo mai argomento. A me interessa un sacco Vannoni invece. Parliamo di un'altra cosa, cambiamo argomento. Parliamo di avete sentito che è stato approvato il mille proroghe al posto del Salva Roma. Il Salva Roma, però, e poi vedremo anche quali sono le cose approvate nel mille proroghe, le leggi di fine anno dove ci sono sempre mance per tutte le iniziative le più svariate. E invece noi abbiamo scovato a Benevento un comune dove i consiglieri comunali sono autotassati loro per realizzare un monumento ai carabinieri. Allora questa cosa, questo spirito di volontà ci è piaciuto e noi abbiamo convocato il sindaco di Benevento, Fausto Pepe. Buonasera. Buonasera. Capito, noi abbiamo fatto questo accostamento perché mentre da una parte in Parlamento si facevano leggi per tutti i comuni, 500.000 euro per la torre di Porto Paolo di Capopassero e altre cose, voi non avete chiesto nulla. No, di fatto è così, in verità noi abbiamo aderito a un'iniziativa dell'Arma per il monumento commemorativo del centenario appunto dell'Arma dei Carabinieri che cade nel 2014 e aderendo come città, hanno aderito devo dire molti comuni in Italia perché questa peraltro è un'iniziativa dell'ANCI. Già per i 100 anni c'è stata l'adesione di numerosissimi comuni, ora per i 200 anni si sta ripetendo la stessa tradizione. Noi come Comune di Benevento abbiamo immaginato di aderire autotassandoci come amministratori a partire dal sottoscritto agli assessori della Giunta, ai consiglieri comunali, anche per dare un segnale in un momento appunto di spending review, di ristrettezze economiche come quella che viviamo, che non li prendiamo dalle casse appunto comunali dove dobbiamo gestire i servizi per i nostri concittadini, ma dagli monumenti. Ma quanto di quanto vi siete tassati per fare questo monumento? Ma noi ci siamo tassati di 100 euro a testa, quindi alla fine il quanto avete tirato su? Contribuiamo con 3.000 euro. Ma diciamo che è simbolico ma è significativo, ma ci sono qualche migliaio di comuni in Italia che aderisce a questa iniziativa. Noi probabilmente siamo l'unico che ci siamo autotassati per poter portare avanti la stessa iniziativa, ma di fatto i contributi che vengono dati per la realizzazione di questo monumento sono tutti all'incirca di 1.000, 2.000, 3.000 euro. Cioè, altro che casta, voi ci rimettete praticamente a fare, se andate avanti così, è la prima volta che fate raccolte di questo genere o ne avete fatte anche altre? Devo essere sincero, no, perché io ho avuto l'onore nella mia città qualche anno fa di ospitare una mamma che ha partorito 6 gemelli, un parto difficile, in Regione Campania un po' tutti gli ospedali non si sono dichiarati disponibili, sì. Il nostro fortunatamente della città di Benevento sì, e anche lì abbiamo donato a questa giovane mamma con questi 6 gemellini 600 euro di tasca propria. In che senso non erano disponibili? Cioè gli altri ospedali hanno detto lei non può partorire qui da noi? Ma c'erano file, c'erano attese, c'era il rischio, per cui l'ospedale di Benevento si è assunto la responsabilità e l'ha preso, sì, più o meno è così, eh. Non hanno consentito Senta, sì, lei, cioè voglio dire, da quanto tempo lei è sindaco? Io sono sindaco dal giugno del 2006, sono al mio secondo mandato. Qualche anno fa, quando ha iniziato la sua attività da sindaco, il clima era un po' diverso. Cioè, lei sarebbe mai immaginato una cosa del genere? Cioè, che si sarebbe autotassato per fare il monumento ai carabinieri? Perché ormai l'aria che tira è questa, no? Cioè, per dare un segnale anche ai cittadini, i sindaci spesso si inventano delle iniziative come questa. Ma devo essere sincero, è cambiato tutto sul piano nazionale, sul piano dei comuni, in pochi anni è modificato completamente il contesto, il clima, l'approccio, le relazioni tra istituzioni e cittadini. Noi abbiamo tentato, io personalmente, di dare qualche esempio significativo, perché mi è sembrato doveroso. Uno è questo del monumento dei carabinieri, per il quale diciamo siamo stati chiamati cortesemente da lei, ma ho ricordato anche l'evento dei 6 gemellini. Va bene, sì. ma di fatto abbiamo, io personalmente, sì, ho festeggiato i miei 50 anni dicendo ai miei assessori, ai miei consiglieri, ai miei amici, sì, che invece di fare i regali a me li dovevano fare i bambini del reparto dell'ospedale civile di Benevento che erano ricoverati lì. Mi è sembrato, come dire, significativo che un sindaco, un amministratore desse un segnale. Un altro segnale in questo senso. Lei ci conferma che rispetto né al mille proroghe né al Salva Roma, il comune di Benevento, voi avevate fatto richieste particolari? Perché c'erano un po' da tutti i comuni d'Italia. Voi non avevate chiesto nulla? Noi non abbiamo richiesto. Lei non ha un parlamentare amico che firma l'emendamento? Consente una battuta, sì, vorremmo perlomeno che si rispettassero le cose ordinarie, non straordinarie, in questo paese. E cosa ha pensato? Ai comuni per le cose ordinarie. Cosa ha pensato invece quando è rivenuta fuori appunto l'elenco delle spese che venivano finanziate in una legge che nasceva per tutt'altro? Ma io ho pensato, devo dire la verità, ho pensato male per due aspetti. Il primo, che si era appunto riempita questa norma di cose che non potevano, dal mio punto di vista, in un momento come questo essere fatte, perché l'Italia è completamente cambiata, ma è cambiata la testa degli italiani e non si deve più giocare su queste questioni. Ma la seconda è che bisogna fare una legge quadro di riferimento sugli enti locali, i comuni, per aiutarli tutti nella fase difficile economica, non solo per la capitale d'Italia, che deve avere tutta la considerazione e il rispetto possibile, ma qua o si salva l'Italia e gli italiani o non è che si salva qualcuno. Insomma, avrei una sensibilità un po' diversa. Però adesso che ci penso, mi viene in mente un modo in cui potreste rientrare nel mille proroghe. Non è che c'è un contributo al trasporto locale in Campania? Ma il contributo al trasporto locale in Campania esiste, ma riguarda la regione, non riguarda voi. Benevento. Peraltro noi abbiamo una società nostra, 100% sì, di proprietà del comune di Benevento, e ogni anno ci rimettiamo molti soldi per garantire il trasporto pubblico locale, che per noi è servizio sociale ai cittadini di Benevento, e peraltro non siamo nemmeno equiparati agli altri capoluoghi di provincia per una vecchia storia regionale, per cui nemmeno questo purtroppo ci tange. Va bene, grazie al sindaco di Benevento Fausto Pepe, auguri. Grazie mille, auguri. Riprendiamo con i vostri interventi all'800 24 00 24 e ci sarà molto da discutere sicuramente sull'intervista che abbiamo fatto a Vanoni del metodo Stamina. Cominciamo con Pierluigi che ci chiama da Roma, buonasera. Buonasera a voi altri. Buonasera a tutti. Senta, io ho telefonato cortesemente soltanto per far presente una cosa. Io da ascoltatore, non propendendo per Vanoni, perché francamente non abbiamo bisogno di guru, però nel contempo neanche abbattere quella che potrebbe essere virtualmente una scoperta, qualcosa di nuovo. Io faccio riferimento ad esempio alla prevenzione che c'è nel settore della medicina, alle cure omeopatiche che non sono riconosciute dalla medicina ufficiale, però poi sul territorio funzionano bene. Oltre Alpe c'è la Francia che la utilizza normalmente per curare tantissime persone. Sono pienamente d'accordo, guardi, sono proprio ho trovato molto ostracismo da parte di moltissimi medici che dicono: ma per carità, ma guardi, cosa curiamo? Le malattie con l'acqua fresca, con le pilloline? Francamente io mio figlio l'ho curato sempre con l'omeopatia. Adesso questo per tornare ad asserire una cosa, il metodo Vanoni ha chiaramente la responsabilità di tenere sulle spalle le speranze di tanta gente che sta male e sta male sul serio. Per cui, secondo me, l'approccio più serio che possa fare Vanoni è quello di mettere sul tavolo tutte le proprie carte. È esattamente quello che gli abbiamo anche chiesto, perché io sono pienamente d'accordo con lei. Mi perdoni, sto parlando lei con il rappresentante dei farmaci? No. Lei con il giornalista? Allora, si riferisce al dottore Muzzi dell'Istituto Mario Negri. Guardi, io non sono neanche un giornalista, sono Carlo Gabardini. Non si riferisce a te, si riferisce a quello che c'era prima, il dottore Muzzi del Mario Negri di Bergamo. Abbiamo capito, è molto precisa la posizione. Però mi sembra che ci sia un pochino di prevenzione. Ma non è prevenzione, è che quello che stiamo dicendo è che forse perché Vanoni si sottrae a questo tipo di ricerca? Perché siamo chiaramente non dovrebbe sottrarsi. Esatto, questa è la questione. Però mi perdoni, Di Bella non si era sottratto, Non so se lei rammenta il caso Di Bella di tanti anni fa. Addirittura fu fatta una sperimentazione a livello ufficiale, sanitario. Gli vennero dati tutte persone che erano di lì a morire, poverini, e vennero somministrati farmaci che poi qualche giornalista tirò fuori la storia che erano scaduti, le somministrazioni non erano date ad orario nel quale erano state in pratica inseriti nel protocollo. Però anche Di Bella, guardi, la cura Di Bella non vale nulla. Ma anche Di Bella non ha riscontri scientifici, infatti. Sì, ma in effetti, guardi, secondo me non li ha avuti, anche perché poi non è stata approfondita la ricerca. E questo non lo possiamo sapere, noi vogliamo che venga approfondita. Di diversi assi nelle ruote. No, lo dico perché mi curo anch'io con l'omeopatia, quindi non ho nessuna prevenzione nei confronti di un nuovo modo di curarsi, a parte che l'omeopatia non è che è stata inventata l'altro ieri, ma comunque... No, però non è riconosciuta. Ha ragione. Guardi Pierluigi, secondo io dico il mio punto di vista, se uno va da solo contro tutti, o è un genio o c'è qualcosa che non va, è un ciarlatano. È il tempo in genere a dimostrare come da che parte stanno le cose. Ora Vanoni un po' di tempo l'ha avuto, però se in tutti questi anni il risultato è che non ci sono prove scientifiche e questo lo dicono gli esperti che lo hanno analizzato e che non credo che ce l'abbiano tutti con lui, di un miglioramento che sia uno, ma solo le dichiarazioni dei pazienti dopo tutti questi anni comincia a essere un po' sospetto. Se poi io aggiungo lui il suo metodo lo esporta a Capo Verde e non in Svizzera o in Francia o negli Stati Uniti, la cosa personalmente mi preoccupa ancora di più. Dopodiché ripeto, sarà il tempo a darci una risposta sicuramente, e poi non saremo noi a risolvere la questione stasera. Grazie Pierluigi comunque, perché tutto sommato ha fatto un intervento ragionevole, finalmente un ascoltatore con cui puoi parlare di questo, e lui ha detto: io non sono favorevole, però diamogli il tempo, diamogli il modo, perché a tutti vogliamo dargli il modo, nessuno non vuole dargli il modo. È questo che non capisco, chi è che dovrebbero essere questi cattivi contro Vanoni? Fabio da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Senta, io sono un medico, un ricercatore in ambito cardiovascolare e francamente ascoltare la trasmissione di questa sera per me è stato davvero sconfortante, le spiego. Quest'estate ho viaggiato in Canada e negli Stati Uniti, ho incontrato colleghi che lavorano con me e con i quali io collaboro da tantissimi anni, tutti mi hanno fatto la stessa domanda, che è com'è possibile che in un paese civile, in un paese occidentale come l'Italia, un paese che 20 anni fa ha insegnato al mondo per esempio come curare l'infarto acuto con la ricerca scientifica, com'è possibile che in un paese come l'Italia si discuta in questo modo, a questo livello di un trattamento che non ha assolutamente alcuna prova di efficacia, perché vede, se noi stessimo parlando di riparare un'automobile, un aeroplano o un televisore, io sono convinto che non ricevereste nessuna telefonata, nessuno direbbe secondo me si ripara così, secondo me è meglio fare in questo modo, secondo me se utilizziamo questo sistema la macchina andrà meglio. Eppure qui parlando di scienza, tutti si sentono in diritto di dire la loro, ma la scienza non si fa né alla radio né alla televisione, si fa sulle riviste scientifiche come il New England piuttosto che Lancet, e questo metodo sotto questo profilo non ha alcun dato pubblicato, stiamo parlando veramente del nulla ed è tristissimo che pazienti, parenti di pazienti si mettano in mezzo a una strada disperati per chiedere una cura che non esiste, la cura non è questa. È veramente avvilente, mi creda. Grazie Fabio. Lei all'estero ha sentito parlare di dove in particolare? Dov'è che forse in perché Canada, lei fa il medico? Sì. In Canada, negli Stati Uniti, in Canada, nel Quebec e negli Stati Uniti a Boston. Quindi diciamo questi che amici, la fama però dei ricercatori mi fanno tutti la stessa domanda. Ma la fama quindi del metodo stamina e di Vanoni non è la fama del metodo stamina, è lo stupore di fronte il caso, a il caso è sul nulla. Sì, è il caso. È arrivato il caso. A parte che Vanoni adesso va a Miami a proseguire la sua ricerca, quindi non è esattamente un problema italiano, direi. Non so dove, vediamo, non credo che sia un'istituzione pubblica, non so, perché non va all'NIH a Bethesda, negli Stati Uniti, il National Institute of Health? È questo il punto, grazie. Infatti, esatto, quello di cui stiamo parlando è esattamente questo, c'ha ragione. Andiamo, dove andiamo? Massimo da Cagliari, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Buonasera. Dunque, prima sentivo appunto l'intervento del professor Vannoni che giocava abilmente su un termine, gratuito, no? Ma in realtà un protocollo sanitario non è astrattamente gratuito, o l'onere ricade sul paziente o sulla collettività. Di conseguenza lo Stato, prima di garantire appunto che l'onere non ricada sul paziente, sottopone appunto un determinato trattamento a tutti degli esami che devono essere assolutamente superati. Certo. Se questi esami non vengono superati, lo Stato giustamente non deve assolutamente garantire la somministrazione gratuita al paziente di questo trattamento, perché noi dobbiamo pagare con le nostre tasse quell'intruglio che poi i NASA hanno analizzato e sono risultate cose agghiaccianti. Poi per carità, ci sarà chi continuerà a pensare che i medici sono tutti dei criminali invidiosi che vogliono far morire le persone perché quello magari diventa famoso, giustamente in NASA avranno truccato le analisi. È un po' difficile da credere questa teoria, devo dire. Mi sembra un po' difficile. No, condivido quello che dice. Mi sembra un po' difficile pensare che tutti i medici in realtà siano contro questo metodo, che in realtà è geniale e salverebbe dal Parkinson. Però, e come giustamente dice lei, rettifichiamo quindi che in realtà la cura non è gratuita, è semplicemente che in quel caso lì, cioè a Brescia, paga lo Stato, giusto? Esatto. Ma poi il principio sbagliato che sento ripetere da tanti ascoltatori, i genitori, i parenti hanno rilevato miglioramenti, bene. Ci sono persone che fanno pellegrinaggi a Lourdes, a Medjugorje e tornano, per carità, dicendo sono migliorato. Cosa facciamo? Lo Stato dovrà rimborsare chi va a Lourdes? Potrebbe essere un'idea. Ho cercato di spiegarlo all'ascoltatore, Massimo, dicendogli che in realtà appunto i genitori non sono i migliori per fare una diagnosi. Cioè mia mamma pur di curarmi si staccherebbe una mano, solo che staccarsi una mano non serve molto a curarmi, quindi concordo con lei. Grazie Massimo, grazie. Adesso dobbiamo riparlare di rifiuti, perché i rifiuti sono sempre di più il tema del, purtroppo, del presente, ma sicuramente anche del futuro. Intanto le notizie, perché avete sentito che l'ARPA della Lombardia, anzi di Brescia, ha detto che ci sarebbero scorie di cromo sotto l'autostrada A4 in territorio di Castagnato. E anche qua cioè, data così come informazione, mi immagino quelli che sono per strada che guardano il traffico e dicono: ma siamo proprio sopra i rifiuti in questo momento. Siamo sulla 4. Castegnato in provincia di Bergamo. Poi avete visto le foto, l'abbiamo detto anche prima, a Roma, dove la raccolta rifiuti è stata evidentemente un po' meno efficiente del solito, con i maiali che pascolavano in mezzo ai rifiuti. Ma non è di questo che vogliamo parlare, vogliamo parlare ancora della terra dei fuochi, perché c'è un europarlamentare di Forza Italia, che è Enzo Rivellini. Buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera. Che oggi se ne è uscito con una sorta di, come dire, di denuncia, di lettera alle istituzioni, ma credo anche alla magistratura, sul fatto che secondo lui è dal 94 che si sa e si può sapere quello che è avvenuto nella terra dei fuochi. Ora devo dire che non per sminuire lei, Rivellini, però l'abbiamo pensato un po' tutti che c'erano già delle denunce, delle inchieste, delle cose, e che non si è fatto nulla in tutti questi anni. Lei però aggiunge dei documenti nuovi e dice: ci sono e c'erano delle carte che ci potevano far capire quello che era successo. Che cosa, Rivellini? No, io non ho aggiunto null'altro se non prendere dei documenti ufficiali che tutti conoscevano, o per meglio dire che tutti hanno dimenticato, perché fin dal 94 tutto il sud Italia e in particolare la Campania è stata fotografata dall'arma dei carabinieri nel 94, nel 2000 e nel 2006, ma non basta solo le fotografie che potevano dimostrare, confrontandole l'una con l'altro, le differenze che c'erano sui territori da un anno ad un altro. Nel 2004, quindi parliamo di quasi 10 anni fa, sì, sul PON Sicurezza, che è un progetto europeo, il CNR e l'Arma dei Carabinieri hanno fatto una radiografia, non parliamo di fotografie, radiografia dall'altezza di 2500 metri su tutto il territorio del sud Italia. Con questa radiografia tutto ciò che c'era nel sottosuolo e che era tra virgolette anomalo veniva segnalato con una colorazione diversa. Non solo, ma nel 2007-2008 l'ARPAC, che è l'agenzia, l'ente regionale dell'ambiente, ha dato al CNR il compito di rifotografare solo il territorio dei Regilagni, il territorio della Terra dei Fuochi, ad un'altezza ancora più bassa, quindi più precisa, da 1500 metri, sempre con questo sistema che si chiama MIVISID e che praticamente fa una specie di radiografia del territorio. Adesso sì, mi chiedo perché nessuno ha pensato di mettere a confronto le dichiarazioni dei pentiti della Camorra, le tante risultanze delle commissioni parlamentari d'inchiesta con queste radiografie e andare a controllare la veridicità delle dichiarazioni di questi, sì, di questi pentiti, oppure andare a controllare quando c'era un'anomalia sospetta se quel territorio, quei pochi metri quadri erano in qualche modo inquinati. In questo modo si poteva avere già una mappatura del territorio. E le bonifiche che mai potranno arrivare per tutta la Campania, perché bonificare tutto il territorio campano, perché no? Per bonificare tutto il territorio campano occorrerebbero miliardi e miliardi di euro, ma se si bonificassero solo quei territori che già sono stati verificati con questa radiografia, sì, potrebbe essere una cosa possibile. A questo punto, sperando di poter essere un politico rappresentativo e non autoreferente, io ho fatto tutto ciò che bisogna fare, cioè una denuncia alla Procura della Repubblica affinché indagasse, ove mai ci fossero dei reati, per capire che cosa è successo e in questi anni perché qualcuno ha dimenticato queste analisi che, ricordo, sono costate decine di milioni di euro, ma però, scusi, mi sembra quasi sì, 50 milioni di euro. Sì. E ho scritto alla Corte dei Conti per verificare se ci sono stati degli sprechi di denaro pubblico e infine ho scritto al Premier Letta e al Governatore Caldoro affinché incentrassero i loro sforzi sfruttando queste analisi che già ci sono, che ripeto sono costate milioni e milioni di euro e che potrebbero dare già da subito una mappatura del territorio e verificare se ciò che hanno detto i pentiti della camorra corrispondono al vero. Però Rivellini, è vero, cioè meglio tardi che mai, lei comunque adesso la sua parte la sta facendo, però perché, se come è stato detto da molti in questi anni, di documenti, di mappature, di studi del Superiore di Sanità ce n'erano, e è vero che oggi sentir dire dal ministro Orlando, per esempio, faremo la mappatura della Terra dei Fuochi per capire dove c'è da bonificare, non devono fare nessuna mappatura, fa ridere, già l'hanno fatta. Perché è già stata fatta, però perché in tutti questi anni? Lei per esempio dice queste cose sono del 2004 e del 94, lei per esempio, non per tirarla in ballo, ma lei cosa faceva nel 2004? È che aveva un ruolo, scopriamo che era... Le do una risposta, sì. Questa è una bella domanda. Io ho ricordato, nel 2007 ero consigliere regionale della Campania, ero capogruppo di Alleanza Nazionale in Consiglio regionale. Ho Quindi ricordato, anche lei non si era accorto di nulla. Mi permetta, altrimenti se non riesco a completare la risposta. Mi sono ricordato di aver fatto in quell'epoca una polemica per la spesa eccessiva che l'ARPAC faceva di questa mappatura del territorio. Sono andato quindi a rivedere sui documenti ufficiali dell'ARPAC e l'ho trovati, ho trovato tutti i documenti, e dal 2007 poi sono risalito, verificando i documenti del 2007 dell'ARPAC, anche al progetto Lara del 2004, il progetto del Ministero degli Interni, non è di un ente qualsiasi, è un progetto PON Sicurezza Ministero degli Interni. Però anche lei non si era accorto di nulla allora, scusi. No, io appena me ne sono accorto ho fatto il mio dovere, che ho denunciato il tutto. Adesso. Io credo che il Ministero, qua parliamo del Ministero degli Interni, del Ministero dell'Ambiente, non credo dell'Arma dei Carabinieri, non credo che questi documenti fossero sconosciuti, e quindi quello che ho fatto non appena sono risalito a questi documenti è stato denunciarli con delle raccomandate alla Procura della Repubblica. Ho capito, alla Procura adesso della infatti Conti, io eccetera. Gliene do atto e adesso... dico meglio tardi che mai, però lei mi dice addirittura, io questo non lo sapevo, che lei nel 2007 aveva fatto, che cosa aveva fatto per chiedere conto di queste spese eccessive dell'ARPAC? Ad una discussione, sì, a una discussione in Consiglio regionale. Perché la mappatura del territorio, mi permetta, già era stata fatta. Io sono andato alla ricerca di questi documenti proprio perché ricordavo che una mappatura era stata fatta. Oggi non si può dire che non si sapeva ciò che era accaduto. Certo. Ci stavano questi documenti, ci stavano queste analisi che indubbiamente possono servire. Dalle notizie che io ho è che la Regione Campania abbia chiesto alla Capitaneria di Porto, perché ha degli elicotteri che volano basso, di fare lo stesso tipo di analisi, queste MIVISID, queste radiografie del territorio in Campania, sulla terra dei fuochi. Senta Rivellini, perché il suo punto di vista è chiaro, io fra l'altro l'abbiamo ospitato perché a noi piace sempre avere un punto di vista positivo, propositivo e costruttivo, e mi sembra interessante prima di tutto il fatto che lei dica non stiamo a perdere tempo e a spendere soldi a fare altre 1000 mappature, perché è solo un modo per rimandare il problema come abbiamo fatto in passato, punto primo, e io sono d'accordo personalmente con lei. Poi lei lancia anche un allarme per le bonifiche, perché dice c'è stato un affare per lo smaltimento illecito dei rifiuti, adesso attenzione perché sotto il naso potrebbe esserci un affare di illegalità e di affari poco leciti sulle bonifiche. Però a questo punto cosa dobbiamo fare? Mettetevi, visto lei è un europarlamentare della Campania, smettetela di litigare tra di voi, mettetevi tutti insieme. No, io non litigo con nessuno, io non solo non litigo con nessuno, ma credo di essere sempre propositivo. Le spiego qual è la mia preoccupazione e qual è la mia proposta. La mia preoccupazione è che per l'emergenza rifiuti sono arrivati milioni, se non centinaia di milioni di euro per tamponare questa emergenza. Purtroppo credo che sulle bonifiche accadrà lo stesso, senza che si arrivi a nulla. Perché dico senza che si arrivi a nulla? Perché mi chiedo come può essere che una città come Napoli, una delle prime città non solo italiane ma europee, non ancora ha un sistema integrato dei rifiuti. Il commissario Potocnik, il commissario europeo all'ambiente, ha più volte detto che ha già disponibile le risorse per un sistema integrato dei rifiuti. C'è il nostro sindaco De Magistris che pensa che non c'è bisogno di nessun sistema integrato, ma che i rifiuti i cittadini napoletani li devono mangiare. Cioè, il sistema integrato vuole... lei intende la discarica e l'inceneritore? C'è chi è che dice il termolarizzatore, sì, chi è che dice l'inceneritore, sì, chi è che dice il plasma, fanno tante chiacchiere. Io a questo punto ho fatto una proposta che farò pubblica il 15 gennaio a Strasburgo, presente il commissario Potocini, il rettore dell'Università di Salerno, il sindaco di Vienna che ha un termolarizzatore al centro della città ed altri. Dirò, scusate, ma noi politici non dobbiamo fare i tecnici, dobbiamo fare i politici. I tecnici facessero i tecnici. Allora, quindi... l'università studia quali sono nelle prime 10 città al mondo il sistema per l'eliminazione dei rifiuti e nello stesso momento studia che incidenze di malattie tumorali o collegate all'eliminazione dei rifiuti ci sono e quel sistema a Napoli copiamo. Perché dobbiamo inventarci, dobbiamo fare i talebani, uno per il termolizzatore, l'altro per il plasma? Noi dobbiamo, visto che i rifiuti credo che esistano in tutto il mondo, prendiamo le prime 10 città al mondo, vediamo quale performance migliore e quale sistema garantisce la salute ai cittadini e copiamo quel sistema. Non è possibile che a Napoli sono anni che ci sono i talebani di un sistema e un talebano di un altro, si bruciano centinaia di milioni di euro e non si arriva ad una decisione. Guardi, lo dice a noi siamo come spettatori, cittadini, e osserviamo i fallimenti della politica da questo punto di vista, quindi sfonda una porta aperta. Che al Parlamento europeo con l'allora europarlamentare di Di Magistris si è arrivato quasi alle mani, ecco, per portare avanti questa tesi. Io non sono... avanti una tesi dialogante, lei è arrivato alle mani con De Magistris, mi sembra al massimo. No, è perché non si arriva, non mi raccomando, si arriva nulla. Mi raccomando, fate delle cose concrete su questo fronte perché ne abbiamo bisogno. Lei è un europarlamentare e sicuramente avrà modo di influenzare. E ci ha detto che il 15 gennaio farà qualche cosa. Lei crede che avere il coraggio di fare le cose che sto facendo in questi mesi e in questi giorni non sia un contributo? Guardi, Rivellini, se no non la chiamavamo in onda, quindi grazie, ecco, e in bocca al lupo per tutto, davvero, sentite, grazie, auguri. Grazie, e seguite questa storia del sistema integrato noi dei rifiuti, sempre, perché abbiamo bisogno di una mano. Bravo. Noi che vogliamo che finalmente arrivi un sistema integrato dei rifiuti. Guardi, lei segua anche noi di Si può fare, che ogni sabato e domenica, adesso siamo in fase delle feste, quindi siamo in questo orario al posto della zanzara, ma normalmente siamo il sabato e la domenica mattina. Di queste cose abbiamo parlato mille volte e tra l'altro, se lei ha bisogno di case, di città virtuose, noi ne parliamo quindi, molto volentieri. Magari qualche spunto lo trova anche da noi, non sto scherzando. Certo, in bocca certo. al lupo. In bocca grazie. Al lupo. Auguri, grazie. Ah, bisogna farle girare le idee sicuramente. E questa insomma era la denuncia dell'onorevole Rivellini per quanto riguarda la terra dei fuochi. Non è che ci siano delle buone notizie, ma insomma, infatti non è una buona notizia, diciamo. Adesso dobbiamo anche fare qualche cercare del buono nelle pessime notizie, per forza. 800 24 00 24. Andrea dalla provincia di Novara, buonasera. Buonasera a lei, come sta? Abbastanza bene, grazie. Innanzitutto complimenti per affrontare un tema in questo modo, nel senso che io sono un pro, diciamo, stamina e ritengo, sì, a differenza dei primi due che hanno fatto l'intervento, che avete dato comunque modo al dottor professor Vannone di comunque spiegare le sue ragioni. Grazie. La ringraziamo grazie. Molto di questo. Cioè, secondo me siete stati veramente aperti a entrambe le visioni. Ma anche perché io ci tengo molto a capire, se posso dire, proprio ci tengo. Perfetto. Mi permetto però di sollevare la vostra attenzione su un punto di vista diverso. Per esempio, anche adesso, aspettando di poter parlare con voi, leggo su Lanza il titolo principale, dice le cartelle cliniche non mostrano miglioramenti. Esatto, nessun miglioramento. Però proprio non si fa comunque nessun riferimento al fatto che dimostrano invece che non ci sono controindicazioni. Allora io, da assolutamente profano della parte tecnica, mi chiedo, dunque, il dottor Vannone mi sembra di aver capito che non può arricchirsi, prima di tutto perché non può brevettare una cosa che avrebbe potuto brevettare e quello sarebbe stato veramente un vero business. Allora, riprendiamo con Andrea dalla provincia di Novara, che stava parlando a proposito di Davide Vannone, del metodo Stamina, del fatto della possibilità di arricchirsi su questa cosa o no? Noi gli abbiamo fatto la domanda, lui dice che adesso al momento nessun paziente può finanziare la ricerca, nemmeno i parenti. In passato i pazienti pagavano, adesso è tutto nelle mani dell'ospedale di Brescia, quindi è tutto all'interno di un circuito pubblico, quel poco che c'è di concreto su Stamina. Prego, però, Andrea, cosa voleva dire? Sì, io sostenevo appunto quello che lei ha appena ripetuto, nel senso, non capisco tutta questa, tra virgolette, aggressività, cattiveria o pessimismo, non il vostro, in generale parlo dell'opinione pubblica o comunque dei giornali e tutto quello che fa parte, diciamo, dell'informazione. Nel senso, allora, se come sembra non ci sono controindicazioni, se chi propone questa terapia comunque al di là di dei controlli che giustamente i magistrati faranno, eccetera, eccetera, comunque non avendo brevettato il sistema, il metodo, di fatto il grosso arricchimento gli è precluso, o meglio ha deciso di non di precluderselo, a quel punto dico non ci sono controindicazioni, lui non può arricchirsi, perché parliamo di arricchimento se parliamo di milioni di euro, e i malati che sono oggi curati o comunque trattati con questa procedura in realtà sono malati che non hanno alternativa. Allora, però scusi, lei dice che la stampa è contraria, però per anni invece c'è stata molta apertura, condiscendenza, pensiamo ai servizi delle Iene che hanno fatto molta propaganda, pubblicità, sì, stampa, a Vanoni, scusi, in questi io anni. Io però la stampa, sì, diciamo, la Iene la considero... lo so che lei la considera la poco, però a livello di gente raggiunta, le Iene raggiungono molte persone, quindi... No, ma io sono esattamente quello che dice lei, nel senso che... Forse dovevo specificare, quando parlo di stampa tradizionale, cioè per esempio l'ANSA che oggi esce in questo momento con questo aspetto clamorosamente negativo e mette ma è una notizia in... però, non è che l'ANSA fa un lavoro, mi scusi se puntualizzo questo perché sì, siamo alle basi, non è che l'ANSA esce con questa notizia perché ce l'ha con Vanoni, l'ANSA è venuta a conoscenza delle cartelle cliniche dei 36 pazienti, cartelle cliniche esaminate dal primo comitato interministeriale che ha esaminato il metodo Stamina, da cui risulta che non c'è miglioramento per nessun paziente, questa è una notizia, l'ANSA, Alessio Maurizi, le Iene, Andrea da Novara, chiunque la deve prendere per quello che è, cioè per una notizia, poi e tra l'altro no, se è vera, se no, se no, no. Sono personale. La notizia in realtà, quella delle 36 cartelle, è doppia. La prima dice che non sono stati confermati o dimostrati dei miglioramenti, e la seconda che non ci sono controindicazioni, che è stata sino a ieri. Vabbè, certo, uno può anche accontentarsi di questo, sicuramente, Andrea. Nel senso, stiamo parlando comunque di malati che non hanno scelta. Quello che si sta dando probabilmente non è, perché siamo in fase... Però io no, ma è chiarissimo quello che sta dicendo. Lei dice, fosse anche un palliativo, ma perché non permetterla? E io sono pienamente d'accordo, però posso rettificare una cosa, perché mi sembra, se non sbaglio, però correggetemi se sbaglio, che in realtà, giustamente, Vanoni dice, nessuno paga niente, questa cura in questo momento è gratuita, ma perché la paga lo Stato. Lo Stato, per poterla pagare, quindi con le nostre tasse, prima deve verificare che questa cura qua sia effettivamente valida. Non è, cioè, nel senso che non può pagare 28.000 euro... Le cifre le sto dicendo a caso, sì, nel senso riprese da altre fonti di altre cure, però per dire non può pagare 28.000 euro un'infusione palliativa che non fa male e non fa bene, in questo senso, perché sennò fra un attimo saltiamo su e diciamo d'accordo. Perché noi dobbiamo pagare milioni di euro questa cosa? Poi per il resto condivido tutto il suo ragionamento e mi chiedo anch'io perché c'è un accanimento. Sei d'accordo con me che in un paese... dove purtroppo si sprecano miliardi nella sanità, una speranza può anche valere il rischio di qualche milione di euro. Va bene, Andrea, grazie, sì, grazie, grazie per il suo punto di vista, perché non possiamo ingaggiare con tutti gli ascoltatori un duello approfondito o un disamina di quello che dicono, perché punti di vista ce ne sono moltissimi, è giusto dare spazio a tutti. Quindi diamo spazio a Luca che chiama dalla provincia di Modena. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie per lo spazio che mi lasciate. Senta, io ho sentito l'intervento dell'europarlamentare Rivellini, sì, e della campagna, giusto, del PDL. Io onestamente quando sento parlare queste persone ci rimango un po' male, perché guardi, in realtà il grosso problema della terra dei fuochi era noto dal 97, ormai lo sappiamo tutti. Perché Schiavone, Rivellini dice dal 94 addirittura, giusto? Dal 94, ma Schiavone comunque... ha rilasciato il pentito, no? Di Camorra, informazioni particolarissime, particolarizzate e importantissime che erano note alle istituzioni e sono state segretate. Ci dobbiamo ricordare che l'opera di desecretazione di queste informazioni è stato possibile grazie all'impegno costante di parlamentari di Movimento 5 Stelle. Quindi questo arriva Ghini, che è campano, e mi pare che lui sia stato anche amministratore delegato di una società che si occupa di bonifiche, per cui di quella zona, non poteva non sapere, non avere informazioni, non dico chiare, ma comunque avere coscienza piena di cosa stava accadendo. Allora, io quando sento che alcune persone si vogliono accaparrare consensi cercando di portare dalla propria informazione, oppure il fatto che si porti alla ribalta questa situazione gravissima e in qualche maniera facendosene proprio il merito, io ci rimango veramente molto male. Va bene, Luca, non è che c'è una gara ad accaparrarsi, secondo me, anzi è una gara positiva, perché se adesso, dal suo punto di vista, cose che altri hanno tirato in ballo, il Movimento 5 Stelle, non lo so, perché allora negli anni 90 non c'era neanche il Movimento 5 Stelle, c'erano movimenti ambientalisti, eccetera, eccetera. A me sembra una cosa, semmai, positiva che adesso tutti vogliano, come dire, metterci il cappello politicamente. Questa è politica, in effetti può non piacere, però la politica si fa anche così, sposando delle battaglie. L'importante è che le sposino tutti e che si faccia qualcosa, soprattutto nella terra dei fuochi, perché dobbiamo dirci forse una cosa, che in questi anni tutti sapevano. Tutti avevano avuto modo di capire, di accedere ai documenti dell'ARPA, dei carabinieri che avevano fotografato il territorio, di qualunque indagine sia stata fatta, ma non si è voluto fare niente, semplicemente perché era più comodo far finta di niente. Un po' come anche, adesso ci butto lì anche l'ILVA, giusto per buttare un po' di... No, non confondiamo gli ambiti, però è un po' la stessa cosa che è successa anche lì, che l'ILVA proprio bene bene bene alla salute non facesse, lo sospettavano in molti, ma che si è preferito dare spazio al lavoro e non chiudere l'azienda e non investire nella bonifica, anche questo mi sembra che oggi sia tutto evidente. Quindi speriamo che l'Unione faccia la forza, come dire. Abbiamo i titoli di Mezzasera, la 7. Dopo lo stop alla Salva Roma appesantito in Parlamento da tante materie estranee, il presidente Napolitano in un messaggio a governo e Camere chiede massimo rigore nel decidere l'ammissibilità degli emendamenti ai decreti e reiterazioni solo per necessità e urgenza. Il capo dello Stato parla anche di modifica dei regolamenti parlamentari. E intanto il governo ha varato il decreto mille proroghe, i dettagli li stanno mettendo a punto in queste ore i tecnici. Nel pacchetto ci sono sicuramente le norme per salvare il bilancio di Roma e quelle per consentire la rescissione dei più onerosi contratti d'affitto della pubblica amministrazione, salvati anche oltre 6 miliardi di fondi europei che rischiavano di essere perduti. 7 mesi dopo una espulsione ritenuta illegittima su cui indaga la magistratura, la Shalabayeva torna in Italia. La vicenda aveva provocato un caso politico nel nostro paese e incrinato i rapporti con il Kazakistan. Ho avuto paura per la mia vita e quella di mia figlia, ha detto la moglie della dissidente kazako. Ringrazio l'Italia per quel che ha fatto, ma non so se mi fermerò qui. Il nuovo anno non comincia bene per gli italiani. I primi conti parlano di aumenti che nel corso del 2014 incideranno per circa 1.400 euro a famiglia. Rincari per la benzina, ma anche per trasporti, rifiuti, luce, persino per prendere una bibita o un caffè ai distributori automatici. Nessun miglioramento scientifico se non quelli riportati in modo soggettivo dai malati o dai loro familiari. È quanto emerge dalle cartelle cliniche degli ospedali civili di Brescia sui malati sottoposti al metodo Stamina. Intanto è vicina la chiusura all'inchiesta della Procura di Torino, mentre l'ideatore del metodo, Davide Vannoni, fa sapere che la sperimentazione potrebbe proseguire all'estero. Tornano le bombe a Beirut. Un attentato nella centrale zona degli alberghi ha provocato la morte di 8 persone e decine di feriti. Tra le vittime l'ex ministro delle finanze, obiettivo dell'attacco. Dalla Siria a Damasco respinge l'accusa di essere mandante della strage. Eccoci qua, 800 24 00 24. Riprendiamo con i vostri. C'è qualcosa su Twitter? Ti ricordi quando ti facevo sempre questa domanda? Me lo ricordo e come? All'inizio, perché tu sei una tweet star. No, una tweet star. Sei sempre su Twitter. Sì, cioè io mi giro un attimo e tu stai twittando. Sono un tweet dipendente. Compulsivamente. È vero. Adesso anche un po' Facebook, però meno. Io rimango un appassionato di Twitter. Da Ho sempre. Visto. Cioè tu hai fatto il contrario. In genere si partiva da Facebook e si arriva a Twitter, tu invece hai fatto il contrario. Ho iniziato tardi, diciamo. Un po' su tutto arrivo un po' in ritardo, direi. Se c'è qualcosa su Twitter di interessante che riguarda... Che non comunico, però, ovviamente. Mi raccomando, ecco, sì. Il nostro account è @sipofare24, il mio @LeMaurizzi. E il mio @CarloGabardini. Giorgio da Napoli, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, sì, volevo intervenire a proposito della Terra dei Fuochi. Sì. No, sono rimasto un po' sconcertato dalle parole di un rappresentante che ha detto Alleanza Nazionale, vabbè, Forza Italia, no? Ex Alleanza Nazionale, adesso Forza Italia, sì. Infatti, allora, dato che io sono di Napoli, dato che queste cose io le ho lette per la prima volta quando ho comprato Gomorra, queste cose erano già note, chi ha letto Gomorra lo sa benissimo, ma soprattutto erano note l'ostracismo a cui è stato sottoposto Saviano e tutti quelli come Saviano che prima e anche dopo hanno cercato di portare l'attenzione e accendere i riflettori su questo problema. Cioè quelli però, che dicevano che non bisogna parlare male della Campania, quelle cose lì. Bravissimo, addirittura un giocatore del Milan, questo per dire che magari non c'entrava niente Mediaset, queste cose qua, un giocatore del Milan di Napoli, Borriello, che allora giocava per il Milan, arrivò a dire senza alcuna ragione sui media che Saviano era uno legato ai soldi, che aveva parlato male dei suoi concittadini, vergogne di questo genere. Però Gomorra è successivo, nel senso che quello che dice Rivellini è che si sa dal 1994, Gomorra è dopo il 94. Certo, 2004, infatti il primo che ha avuto il coraggio di parlarne penso sia stato, almeno questo è per, faccio il riferimento su me stesso, ma il problema non è questo, voi siete i media, avete una responsabilità enorme, sì, su questo, quindi vi pregherei, dato che ovviamente sono un vostro cliente, sì. Cliente no, vabbè, fanno 5 euro alla fine della telefonata, faccio parcella, li seguo tutti i giorni, sì. Quindi sicuro che la vostra professionalità comunque deve far emergere il fatto che basta andare a vedere negli archivi che le persone che oggi si ergono a paladini e a difensori di quelli che poi sono state le vittime di questa, sì, di questa vergogna nazionale, oggi non hanno nessun diritto di dire no perché noi l'avevamo detto, no, loro sono stati i primi invece a cercare di tenere la cosa nascosta, questa è storia e non si può cambiare la storia, però si può cambiare idea, no? Si può cambiare idea, io non so dove era esattamente Rivellini nel 94, nel 2004, infatti gliel'ho anche chiesto, lui in parte ha risposto citando una cosa del 2007, è chiaro che anche lui ha fatto parte di questo sistema, l'importante è forse che si può anche cambiare idea, poi sulla paternità di queste battaglie certo conta la coerenza sicuramente, ma conta anche che poi si faccia concretamente qualche cosa. E soprattutto Rivellini propone un metodo, insomma, cioè propone una soluzione, diciamo, o perlomeno un pezzo di soluzione. Debba sentir dire da uno che per 10 anni, 15 anni ha fatto finta che il problema non esistesse, e oggi invece noi dobbiamo, anzi sono loro quelli che per tanti anni hanno fatto battaglie, quando mai? Ma dove? Ma basta andare a vedere, ecco, voi avete la possibilità, io no, andate a vedere un attimo quello che diceva, non voglio parlare dell'individuo, andate a vedere queste persone cosa dicevano 3 anni fa, 4 anni fa, 10 anni fa, e sarà semplice poi dopo, magari in un intervento in diretta, a dirgli scusi, ma è vero, ora per carità, ragione. Io parlo così perché mi dispiace, magari faccio torto a voi, ma uno come Travaglio mi sembra che fino adesso è l'unico qua in Italia che quando ci sta una dichiarazione di qualche politico vada un attimo a rivedere nel passato quello che lui aveva detto sullo stesso argomento. Allora, il mio invito molto civile, molto rispettoso nei vostri confronti, sì, è questo. Vi prego, per favore, ecco, di anche a posteriori, però rimarcare cosa le stesse persone hanno detto fatto prima. Va bene, perché Giorgio, però è d'accordo, facciamo Giorgio, passare per eroi, sì, persone che ma non no, lo mettono. Ma ora addirittura eroi, no, è Rivellini, non è che voglia, l'abbiamo fatto passare, questo lo sta dicendo lei. È d'accordo con me però anche che, prima di tutto, che si può cambiare idea, e questo è positivo, cioè se uno cambia idea e mi dà ragione, se lei nella fattispecie chiama da Napoli, dice ma io queste cose le ho dette anni fa, adesso lo dice anche l'onorevole Rivellini, lei non è soddisfatto, dice adesso vedi, avevo ragione io. No, perché no, queste persone lei vuole avere ragione da solo. No, vabbè, perché un po' no, perché a uno viene voglia di dire il consenso, cioè loro vanno dove va il consenso. Certo, però se il consenso adesso va in questa direzione, è meglio di prima, quando il consenso andava nella direzione di far finta di nulla e di non vedere nulla e di mettere la testa sotto la sabbia. Però il dubbio dell'ascoltatore mi sembra lecito. Che uno di Alleanza Nazionale che abbia 30 anni e che la sua storia 10 anni fa, sì, non la conosceva, lui è titolato a dirlo, non uno che sta in politica da 20 anni, ma per parlare di lui, di questo, ripeto, non ne sto facendo un fatto personale. Vabbè, Giorgio, d'altra parte, però un politico che, sì, ha almeno 20 anni di storia alle spalle non può dire, non ha nessun titolo per dire io non lo sapevo, io non ho fatto niente perché non lo sapevo, non è credibile. Va bene, grazie. No, ma soprattutto quando un politico in realtà dice lo sappiamo dal 94, perché la vera risposta che ti viene da dire è allora dov'eri nel 94, cioè se lo sapevi dal 94 perché non avete fatto niente già nel 94. A proposito di impegni e di annunci, speriamo che questo qua di Bastia Umbria non sia solo un annuncio, ma sia un impegno concreto, perché è stato presentato poco tempo fa, credo che i lavori cominceranno abbastanza presto, un quartiere insula zero emission a Bastia Umbria, nella ex area industriale delle Officine Franchi, un quartiere interamente pensato, progettato e costruito e risanato per diventare un quartiere a zero emissioni, cioè un quartiere ecologico dove si vive bene, non si inquina, si sta bene, e noi ne siamo molto contenti. Salutiamo il sindaco di Bastia Umbria, Stefano Ansideri, buonasera. Salve, buonasera. Buonasera. Allora, un progetto che tra l'altro ha l'ulteriore valore aggiunto di prevedere investimenti privati, quindi anche occupazione, oltre che insomma anche un ruolo pubblico. Ci racconta di che si tratta, sindaco? Beh, innanzitutto questo è un PAIM, è un piano attuativo di iniziativa mista, come diceva lei poco fa, prevede l'intervento ovviamente del privato e del pubblico, sì, anche perché, come ben saprà, la situazione in cui versano le amministrazioni comunali poco dà spazio agli investimenti, quindi dobbiamo in qualsiasi modo cercare di coinvolgere. E questa è una cosa, se vogliamo fare qualche che cosa, prima o poi qualcuno dovrà correggere, perché anche un comune che ha le risorse e vuole fare un progetto bello che dà lavoro deve stare un po' fermo, perché questo è un altro discorso. Ho avuto modo di scrivere anche e fare dichiarazioni in questo senso. Il nostro è uno dei pochissimi dei 143 comuni virtuosi in Italia e ci troviamo nelle stesse condizioni di Roma, di Napoli e di tutti, certo, i comuni che sono così un pochino allo sfascio. Questo, ripeto, è un argomento che dovremo trattare e speriamo che possa essere affrontato e risolto. Quello che invece è l'oggetto della trasmissione del mio intervento in questo, sì, momento, è questa zona importante che peraltro è collocata vicina, praticamente attaccata al centro storico. C'era grande interesse affinché questa zona potesse essere sistemata, parliamo di circa 23 ettari, quindi per un comune come il nostro, non molto grande territorialmente, rappresenta una porzione importante. Qui è stata pensata e sarà realizzata, dovrebbero partire i lavori subito, una isola, come diceva lei, a zero emissioni di CO2. Praticamente in questi 23 ettari saranno collocate diverse funzioni, però 8 di questi 23 ettari saranno destinati a verde pubblico, 6 dei quali a parco proprio, vero e proprio. Lì sarà inserita per esempio una funzione importantissima che è quella del social housing, consentitemi di ringraziare la Cassa Depositi e Prestiti che sta gestendo tutta l'operazione e che ha appunto prestato molta attenzione a questa funzione del social housing, che non è, come qualcuno ha detto, riduttivamente la realizzazione di case popolari, è tutt'altra cosa. C'è una normativa nazionale che la disciplina. E che cos'è? Ce lo dica allora, già che ci siamo in 30 secondi. È la costruzione di appartamenti, tutti peraltro, sì, in classe A, quindi significa con risparmio energetico per quanto riguarda l'impiego dei materiali e le apparecchiature, gli apparecchi che andranno a rendere servizio a questi appartamenti, ma soprattutto è la costituzione di una chiamiamola isola nell'isola, no? Nella quale sono non soltanto previsti funzioni abitative, ma c'è tutta una serie di servizi che vengono messi a disposizione di questi appartamenti. Appartamenti che saranno assegnati a chi ne farà ovviamente istanza e a chi avrà ovviamente quei requisiti per poterli ottenere. Ecco, quali sono questi requisiti, già che ci siamo incidentalmente? Perché uno si immagina una cosa così bella e dice: cavolo, ma voglio andare anch'io a vivere in questo quartiere a Bastia Umbria. Innanzitutto sarà una questione che farà riferimento alla composizione della famiglia e al reddito della famiglia stessa, anche perché le tipologie di assegnazione prevedono o l'acquisto diretto o l'affitto puro e semplice, oppure l'affitto con il riscatto. Quindi, come vede, c'è una varietà di scelta che sarà ovviamente commisurata alle tasche di chi potrà accedere. Sarà comunque, ci sarà un regolamento per l'assegnazione, quindi dovranno essere soddisfatti più elementi per potersi aggiudicare questi appartamenti. Però quello che è importante è che non sarà semplicemente una funzione abitativa, come dicevo prima, ma l'inserimento a fianco delle unità abitative di tutta una serie di servizi alla persona che servizi, per esempio? Ma servizi, per esempio, negozi o attività artigianali, tipo stirerie, lavanderie, insomma tutta una serie di strutture che vanno a servizio appunto della abitabilità di quella zona, senza spostarsi necessariamente in altre zone della città. Non devo prendere la macchina per andare a cercare come anche succede poi nei quartieri dormitorio che abbiamo visto troppe volte in tante città. Ma come lavanderia intende delle attività di lavanderia? La lavanderia tradizionale, che laundry, quelli che conosciamo tutti quanti. No, pensavo fossero delle lavanderie comuni, nel senso dove tutti quelli che abitano possono lavare. No, è quello di solito nel co-housing. Anche quelle automatiche. Che no, ormai hanno preso sopravvento. Sai, noi qua a Milano siamo abituati, Gabardini è abituata a degli standard alti. No, non è uno standard alto, è quello, no? Il vantaggio è che invece che ognuno si compra la propria lavatrice, all'interno del condominio c'è un unico locale in cui ci sono le lavatrici che vengono usate da tutto il condominio. Questo non lo fate, potete farlo. Poi dopo, queste non sono idee che probabilmente magari non avranno sviluppato, però insomma diciamo che sono tutti, forse stiamo anche focalizzando il nostro interesse su una cosa che magari è la più semplice e quella con meno valore aggiunto, però ripeto, abbiamo tutta una serie di servizi che possono essere messi a disposizione degli abitanti di quella zona. Poi dopo, quello che è comunque importante, visto che parliamo di green, quando parliamo di isola a emissioni di CO2 pressoché zero, ecco, è questo che ci interessa. Dobbiamo considerare che qui sono state inserite tutte le tecnologie, le più nuove per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Per esempio? Per esempio c'è tutto meno l'eolico, perché Bastia è una città completamente pianeggiante. Non c'è vento, niente. Non avendo alture o comunque. Quindi a parte questo, efficienza energetica, fotovoltaico. Dato che stiamo quasi per chiudere, perché alle 20:30 ogni sera finiamo, e invece mi sembra importante puntualizzare una cosa, perché tutti a casa staranno pensando: ma che bello, social housing, piste ciclabili, il parco, efficienza energetica, vorrei avercela a casa, tutti vorremmo avere una cosa così. Come si arriva a progettare una cosa del genere, che avrà un costo immagino forse anche più elevato che fare case a bassa efficienza energetica, non fare il parco, che poi ha un costo anche di manutenzione, eccetera, eccetera. Perché sappiamo che in questi anni, insomma, diciamocelo chiaramente, se siamo andati nella direzione opposta rispetto a quello che state facendo voi, sbagliando, è perché era più comodo, si spendeva meno, costava di meno. Come avete fatto voi a fare questa inversione di tendenza? Beh, innanzitutto deve considerare che, essendo fermo il settore dell'edilizia, se non si trovano sistemi per poter attirare l'interesse di chi vorrà fare gli investimenti, rimarrà lettera morta. Quindi un po' di marketing questo senz'altro, però dobbiamo creare, ritengo, le condizioni migliori per andare ad investire su un immobile. Poi soprattutto per quanto riguarda il discorso, scusi se torno su questo, ma social housing costituisce comunque una parte importante, anche se non è l'unica, e lì c'è la possibilità di andare a occupare, no? Abitazioni in base a quelle che saranno le proprie o sono le proprie capacità economiche, anche di sviluppo delle giovani famiglie o semplicemente le persone anziane che non hanno più magari figli perché lavorano fuori, lavorano, no? Quindi sono sole, quindi hanno gradimento anche a rimanere vicino agli altri proprio per creare quella comunità e soprattutto ricreare le condizioni di intercomunità, scusate, vabbè, abbiamo capito. Per quanto riguarda appunto una vita, no, la più sociale possibile, ecco. Vabbè, insomma, complimenti sindaco, in bocca al lupo per questo. I complimenti, ripeto, non li deve fare a me quanto al coraggio, perché oggi ci vuole coraggio da parte degli investitori che hanno deciso di buttarsi in questa avventura. Quando sarà pronto, già si abita? Invitiamo per vederla, senz'altro. Va bene. Senz'altro. Quando però? Quando sarà pronto? Stanno partendo adesso, quindi diciamo che almeno gli appartamenti quelli devono essere finiti in 3 anni. Sarà ancora sindaco quando ci saranno gli appartamenti? Ma io, il mio mandato scade il prossimo anno a maggio, ho già rappresentato la mia volontà di ricandidarmi, non so se i Bertioli, i cittadini Bertina ci vorranno, però farò il possibile per rimanerci. Va bene, grazie mille sindaco Umbra, perché Bastia Umbra invece l'Umbria è la regione, sa com'è. Grazie. Auguri. Grazie a lei. Grazie. Ci fermiamo qua. Buona serata a tutti. Ci risentiamo lunedì prossimo. Un ringraziamento a Cristian Penultimo Bolloni, dell'anno. Certamente a Isotta Scena, Valeria Bernardi in regia, Carlo Gabardini. Noi ci risentiamo allora anche lunedì. Sì, ultima puntata. Signori. Penultima puntata del 2013. Poi vi faremo gli auguri l'ultimo dell'anno. Sentiremo il discorso del Capo dello Stato come da tradizione. Questo è il 31. Certo, e poi, poi cos'altro? Basta. Basta, direi, tutto bello. Poi da lunedì dopo torneranno Giuseppe Cruciani, David Parenzo, la Zanzara e si può fare, torna nel weekend. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti, a e lunedì. Soprattutto a chi ci ascolta in podcast.